passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Sorelle d'Italia, l'Italia sedesta, dell'elmo di Scipio si cinta la testa, dov'è la vittoria, le borga, la chioma. Comportamenti dissonanti, con particolare riferimento all'articolo sulla bandiera tricolore, non corrispondono alla fisionomia e ai doveri di forze che abbiano ruoli di rappresentanza e di governo. Scipio si cinta la testa, dov'è la vittoria, le borga, la chioma. Tribuna, le nostre bandiere non hanno cessato un momento di sventolare sotto il vento che oggi ci sferza. Guardate indietro, là c'è una bandiera italiana, guardate come moscia, guardatela, e là, guardate, non ha mai sventolato un momento, le nostre bandiere non hanno mai cessato di sventolare. Di Roma, Dio la creò. Combattere fino alla fine, fino alla libertà, fino a che la bandiera dei centralisti, dei luridi centralisti italiani finisca nella polvere. Dov'è la vittoria, le borga, la chioma. E siamo qui, caro Parenzo, in diretta da Roma, 800 24 00 24. Eccoci, caro direttorissimo. Come va? Bene. Francamente bene, tornati sulle barricate. Dunque, le frasi napoletano, ma insomma, per quello che riguarda l'Italia, il tricolore, sì, eccetera, eccetera, bastava ascoltare l'ormai epico Borghezio, direi, no? Insomma, come dimenticare? Come dimenticare ormai quello come che, non citarlo? Come non citarlo dopo quello che ha detto nei giorni scorsi qui alla Zanzara? Di Roma, e Dio la creò. Sorelle d'Italia. L'Italia sedesta. No, l'Italia, detto con diciamo il massimo rispetto per tutte le autorità, civili, penali, eccetera, eccetera, religiose, civili, sacre, eccetera, non conta un cazzo. Questo è quello che vede l'europarlamentare Borghezio dalla sua visione europea. Non contiamo un cazzo. Ora, a me personalmente, dei 150 anni dell'Unità d'Italia non è che sia un tema che mi appassiona particolarmente, no? Te, Parenzo, ti appassiona? Meno di quanto possa interessare a te, ma come temo a un sacco di italiani che in questo momento ci stanno ascoltando, ma c'è anche una ragione che poi magari ne parleremo, ne discuteremo. E invece i colibrì ti interessano? Gli uccelli? Sì, i colibrì. L'uccello salvato, gli uccelli salvati da Berlusconi, dici? Ti interessa come tema? Guarda, non lo ritengo fondamentale per il futuro e lo sviluppo del paese l'uccello salvato da Berlusconi. Forse ancor meno dell'Unità d'Italia. Sai che ha contribuito a questa vicenda in maniera così piuttosto casuale, forse? La zanzara questa volta non c'è. Non c'entra. La zanzara è sempre comunista. Ieri, scusa. Sì, quello sì, intervistando la HAC, certo, che dice che vuole baciare Berlusconi in fronte, eccetera. Clamoroso. No? Però la zanzara è sempre comunista. C'è una mosca, una zanzara comunista che mi ha preso. Vedi, cioè, guarda, vedi? Eccola qua. Ma la persona che ha contribuito a risolvere la questione dei colibrì, almeno a parole, è Vittorio Sgarbi, vero Vittorio? Sarete due tonti voi due coglionacci incapaci. L'Unità d'Italia è un fatto assolutamente fondamentale e i colibrì sono il segnale di una efficienza rispetto a quello che il governo non sempre mostra di fare. Cioè, il governo è efficiente perché Berlusconi salva gli uccelli. Perché salva gli uccelli. Vi dirò di più, che siete talmente incapaci voi due che non sapete che io ho parlato un attimo fa con il sottosegretario Letta, sì, il quale mi ha chiamato dicendo: caro Vittorio, ancora una volta hai fatto parlare, tutti parlano dei colibrì, eccetera, eccetera, però non è una cosa così facile. Scusa, adesso cominciamo a ragionare. Dico, non è che i colibrì devono essere un... No, perché c'è la procura, l'Italia viene minacciata e ricattata da magistrati incapaci ormai sempre. Ma scusa, sui colibrì. Come sui colibrì? Cioè, i magistrati e i colibrì? I colibrì sono il simbolo di una Italia che non può in alcun modo continuare ad avere dei coglioni che dicono no. Ma scusa, però Vittorio, noi eravamo arrivati, scusa Vittorio, eravamo arrivati. Ma non avete abbastanza compreso? No, ma no, aspetta, questo ci sta raccontando una cosa nuova. Noi eravamo rimasti al fatto che tu, facendo da intermediario tra il direttore di quel centro a Miramare, a Trieste, Berlusconi, sei riuscito a ottenere la promessa da parte di Berlusconi di salvare, di mettere i fondi per salvare i colibrì che noi abbiamo portato dal Perù, eccetera, eccetera. No, che è successo dopo? Che è successo? Che non è una cosa vitale, però è un dato. Io vado per parlare di una cosa molto più importante, come l'altra seconda di cui vi parlerò fra un attimo, che ha le condizioni dell'acqua. In Italia prendiamo due casi importanti: Venezia come simbolo di una grande città d'arte, e L'Aquila come simbolo di una città ferita e che non può continuare in quelle condizioni. Sono due temi importantissimi. Vabbè, sei andato a Berlusconi a parlare di queste robe qua. Allora, vado a parlare per Venezia dicendo: ti pare possibile che noi chiudiamo Firenze, Roma e Venezia il primo dell'anno? Ti pare possibile che i cartelli di Venezia siano solo per Moët, Chandon, la Coca-Cola e Bulgari e non siano per le grandi mostre di Venezia? E mentre mi accingevo a parlargli di questo, che era un tema credo importante. E anche del io so anche del tuo programma, comunque parentesi. Il programma, quello voglio dire, il programma dipende dalle mie capacità, quindi non è... Vabbè, però ne hai parlato con Berlusconi, di la verità. Ho parlato con Berlusconi per dire è inutile fare le polemiche dicendo no Santoro, no questo, no quello, facciamo un'altra cosa nuova, facciamo anche noi, invece che lasciar fare soltanto. Ma questo, vabbè, è questo un argomento che potrebbe perfino non essere interessante, anche se la televisione è molto importante, ma che Venezia abbia chiuso il museo il primo dell'anno è uno scandalo, perché non si può pensare che l'economia funzioni quando impedisci che possa funzionare. E siamo d'accordo. Altri tre volte, e ne sbatto i coglioni delle teorie generali dell'economia del Ministero del Tesoro, quando nei fatti pratici viviamo in una specie di idiozia. Ma perché sono chiusi per colpa di Tremonti che non dà i soldi, o per miopia degli amministratori? Sono chiusi per mancare, Tremonti, non valutando che l'economia può basarsi anche sulle città d'arte, fa delle considerazioni astratte. Perché Tremonti e le città d'arte sono distanze, se ne fotte totalmente, o no? Ma non c'entra un cazzo, sai che proprio mi sembravi più intelligente una volta. È una domanda. Tremonti parla di un'Italia che potrebbe essere un deserto, invece l'Italia è il paese più ricco del mondo. È quello che dico. Esempio, se tu hai un grande albergo e lo tieni chiuso e non ci va nessuno, sei un coglione. Ma ho detto la stessa cosa. Allora, se tu puoi guadagnare in ogni giorno 40.000 euro, 50.000 euro con i musei e li tieni chiusi, farai un'idiozia. Cioè, ma è quello che dico, ma diciamo la stessa cosa. Allora, ma non c'entra Tremonti, intendo come non dire. C'entra? Chi è che li tiene chiusi? Perché di chi è la colpa? Nessuno, perché ci sono, è diverso, sono i sindacati, neanche i sindacati si accordano con Resca per tenere aperti tutti i musei il primo dell'anno e anche per Natale. Tutte le città aderiscono, meno Venezia, Roma e Firenze. E perché? Perché i custodi vogliono stare a casa, se ne fregano dei soldi, ci sono i soldi, ma preferiscono stare a casa. Ah, ho capito, benissimo. Allora mi chiama Reschi e dice: sono tutti ricchi i nostri custodi, perché non mancano i soldi, mancano i cervelli, mancano le idee. Benissimo. Allora, appena io ho detto li apro lo stesso, ho chiamato le cooperative, dopo un minuto quelle di cooperative che hanno bisogno di soldi, evidentemente i custodi di Stato non ne hanno bisogno da questo punto di vista, hanno aderito subito, cioè li ho aperti, perché per un custode di Stato che stava a casa, uno delle cooperative è venuto. Dunque i soldi sono un falso problema. Va bene, sono un falso problema, ma questo è un altro problema. Allora, dunque sono diventato un po' più intelligente adesso, c'è una mancanza di funzionamento, a Venezia, tu devi pubblicizzare il Palazzo Ducale, l'Accademia, pubblicizzi Bulgari, pubblicizzi Coca-Cola, allora, mentre io mi avvio a parlare di questo tema che sarà abbastanza interessante, molto interessante, mi telefona Rimoli e mi dice e mi racconta che la Presti Giacomo, non il ministro più lampeggiante di idee che noi abbiamo, non gli ha fatto la convenzione per il dono fatto dal governo del Perù, non so, perché avrà qualche direttore generale che non capisce. A questo punto il problema mi pare così piccolo che io per pura battuta lo dico a Berlusconi, il quale invece di dire chi se ne frega dice no, i colibrì sono bellissimi, li ho ad Antigua, ebbene non mandarli via perché la metà muoiono. A questo punto mi sembrava tutto risolto e lui stesso ovviamente non avrà nulla in contrario. Mi chiama oggi Letta per dirmi, come hai sempre fatto parlare tutta l'Italia di te, dei colibrì, però l'argomento mi pare un argomento molto difficile. Io a quel punto sono rimasto. Come perché difficile? C'è la magistratura, ma che la magistratura nel cesso deve andare, una magistratura che si occupa dei colibrì nel cesso deve andare. Ma chi è che se ne occupa? Scusa, però poi allora, non sono, è possibile. Posso essere d'accordo, ma chi se ne è occupato? Parlare? Sì, come ti lasci parlare? Quando io ero assessore a Milano, un animalista ha fatto una protesta contro un grande uomo di teatro che mangiava per la sua rappresentazione un astice in scena. Hanno bloccato me lo ricordo, quella vicenda. Ma quello è un cretino, quello è un cretino. I ristoranti d'Italia non si mangiano altro che astici. La magistratura non deve rompere i coglioni, non può mettersi in mezzo delle stupidaggini. Ok, ma che è successo con i colibrì? Chi è che si è messo in mezzo? Non lo so, un esposto, perché non c'è la convenzione. Allora il povero sorridente Caburlotto, si chiama Caburlotto, ha mandato una comunicazione a Rimoli dicendo dovete mandare via i colibrì. A me pare che su questo, per una commissione che costa 40.000 euro, che ci sia o che non ci sia, ho parlato col sovrintendente precedente che si chiama Magani, ha detto ma è una sciocchezza, si risolve in 5 minuti, si fa una piccola moratoria. Però di cosa è preoccupato Letta? Di cosa la presti Giacomo? Della magistratura che si occupa di 80 colibrì. Calci nel culo! Ho capito. Calci nel culo! Il problema magari, Vittorio, allora, è che qualcuno... hanno indagato me per mafia, è da allora che io so che sono pericolosi, ma peggio di quello che dice Berlusconi. Se non si può avere l'Italia in mano di gente che rompe i coglioni per i colibrì. Perché tu e dici... che abbia ragione anche lei, le mandi a cagare i magistrati! L'esposto! L'esposto che hanno fatto, qualcuno avrà fatto un esposto... per la non... magistratura lo archivia e lo rompe i coglioni. E quello pure è vero, l'esposto sui colibrì andrebbe archiviato. Io sono mafioso in Calabria e li ho mandati a cagare. Vabbè, adesso... uno che pensa che io sono mafioso, nei calci del culo deve prendere. Adesso indagheremo perché effettivamente la magistratura che si occupa dei colibrì insomma, no, lo dico per una cosa, perché Letta, che pure è una persona di buon senso, di fronte alla catastrofe dell'Aquila, alla Venezia che non riesce ad andare a promuovere le sue mostre, agli alberghi che non sanno che mostre si fanno perché non c'è nella minima comunicazione, mi chiama dicendo il problema è abbastanza difficile. Ma allora com'è difficile la magistratura dei colibrì? Se sei difficile quello, come può andare avanti un'Italia in cui è difficile il problema dei colibrì? Quello che sto dicendo. Però bisogna anche dire, Vittorio, che al di là... sono interessanti come test. Se fossi io presidente del Consiglio, 1.000 ne porto di colibrì e prendo a calci nel culo quei magistrati. Perché ci sarà il problema, saranno gli animalisti, sono sicuro, gli animalisti come l'AC sono tutti con Rimoli. Tutti con Rimoli. Allora di chi è che ha fatto un esposto? Chi è che ha fatto un esposto? Scusa, pare che sia la Forestale che si è mossa, perché la Forestale si è mossa perché la convenzione con il Ministro dell'Ambiente non è stata fatta. E allora sono lì illegalmente come clandestini, e dunque indagano qualcuno, è uno spazio pubblico in cui non pagano. Ma è una cosa, tu chiama questo Rimoli, glielo chiedi. Beh, è una cosa pazzesca, è quello che preoccupa. Certo. Beh, io comunque guarda Vittorio, già il fatto aspetta che di colibrì sia in Italia è pazzesco. Chi se ne frega di colibrì d'Italia? È un problema abbastanza difficile. No, no, ma infatti il problema non sono i colibrì, evacuare i colibrì, dovremmo evacuarli. È un ponte aereo per i colibrì. Restituirli al quello stronzo lì, il tuo amico, come si chiama? Il mio amico Parenzo. Parenzo. E noi che facciamo spiritoso. Quanto è l'unità d'Italia? Ma non è che abbia molto significato, ma quando Napolitano chiede l'unità d'Italia rispetto alla Lega e ad altri, non fa altro che dire che l'Italia è il Rinascimento, è Dante, non è il Risorgimento. Non puoi mettere in discussione Antonello da Messina. No, no, non ma puoi mettere in discussione. No, e questo è il fatto. Cioè, se cominciamo con l'idea che l'Italia non riguarda noi. No, ma certo che riguarda noi, sto dicendo i festeggiamenti, le manifestazioni. I festeggiamenti sono per richiamare che l'unità d'Italia è un valore pre-unitario. C'era con Antonello, c'era con Dante, c'era con Ariosto, cioè l'unità d'Italia è la nostra lingua. La nostra arte. Ma con me sfondi una porta. Quando vai in un grande museo, vedi Italian School e vedi Piero della Francesca, Raffaello, Antonello, basta, questo, non possiamo minacciare un valore dell'Italia perché si alzano quelli che dicono non se ne frega niente. Certo, se ne frega niente, neanche di nulla se ne frega nulla, ma simbolicamente è interessante ribadire che l'unità d'Italia è la cultura italiana. Comunque questa storia dei colibrì è pazzesca. Io, la magistratura che interviene per i colibrì, e forse siamo costretti ad evacuarli perché chissà quale reato è stato commesso fino adesso, perché mi sembra questo il punto, no? Cioè, dico, quando mi ha chiamato Letta, io ero convinto che mi è molto divertente, ciao, è molto divertente mi ha appena chiamato Letta perché il caso di Colibrì è molto complicato. Pensavo che dicesse lo risolviamo in 5 minuti. Invece, con chi stai parlando? Sentito, scusa, Vittorio. Sto parlando con gli amici che saluto. Sì. Quando invece mi ha detto così, tanto per di mezzo, sì, ho sentito che questa cosa poteva sembrare un caso. Non certo, è un caso, bisogna avere la forza di. Cioè, sta ripetendo la cosa degli amici che sono. Al perfetto diavolo la magistratura, la forestale che si occupa dei colibrì, ma che vadano a occuparsi di quelli che incendiano i boschi, la smettano. Ci vuole una Presidente del Consiglio che mandi a cagare molto peggio di tutti quelli che rompono i coglioni con argomenti che non esistono. Ho capito, però non sai, quando si mette in moto una procedura burocratica, la magistratura, le carte bollate, i ricorsi, eccetera, è finita, tutto è bloccato. Ma d'altra parte, scusa Vittorio, noi abbiamo portato qui questi colibrì dal Perù, li abbiamo portati qui in Italia e poi non abbiamo mollato un quattrino per mantenerli, ma ti rendi conto o no? Sì, ma però questa, la questione poi... La colpa di chi è? Della Prestigiacomo? Di chi è? No, non so quale sia il ministero che poteva farlo anche i beni culturali. Intendo dire però che ci sono protocolli di intesa e di accoglienza firmati da un ministro italiano che si chiama Matteoli, sì, e da un certo ambasciatore che si chiama Denardis. Quando tu li hai accolti come dono, sì, non è che puoi prendere il dono e buttarlo a appunto, diavolo. È quello allora, che dico. La cosa che era interessante era semplicemente questa, che l'argomento poteva essere peregrino o privo di interesse, se non fosse che lui ha dimostrato, questo mi sembrava divertente, di conoscere bene i colibrì e di Berlusconi, amarli, sì, ha detto la frase più interessante anche per l'AC, se li evacuiamo ne muore la metà. A quel punto c'era anche la Brambilla che come animalista... È sempre là la Brambilla, come mai? È sempre a... lì, la quale ha detto è giustissima la battaglia per difendere i colibrì. Quindi abbiamo Presidente del Consiglio, Matteoli, sì, la Brambilla, Sgarbi, che si muove, professore universitario che mi chiama, che si chiama Susmel. Pure. E tutto questo c'è la Prestigiacomo che chiama e parla, dice no, ma c'è la magistratura. Dico, ma pensi alle pale eoliche con cui hanno distrutto la Sicilia e si occupi del fatto che lei è stata zitta mentre distruggevano il suo paesaggio siciliano, altro che colibrì. La magistratura arresti i delinquenti dell'eolico e la smetta di rompere i coglioni su argomenti che non esistono. I colibrì, task force sui colibrì. Torniamo tra un attimo perché Vittorio mi devi raccontare una cosa, ma è vero che Berlusconi ha passato Capodanno solo davanti alla televisione? Beh, insomma, è una rivelazione che ho letto oggi in un articolo che... No, l'ho letta io, cioè non mi ha raccontato... Un attimo solo, però non te ne andare, non cominciare a parlare a destra manca, un attimo. Disse l'uccellino al cacciatore, son l'unico rimasto in tutto il mondo, da questo tuo orribile sterminio. E siamo qui, 18:48, 800 24 00 24, caro Parenzo in collegamento da Roma, Vittorio Sgarbi non so dove sia. Eccolo qua. Io sono in autostrada tra l'Abruzzo, dove ero ieri, o l'Aquila, e vado, sì, adesso a Monopoli. Stasera sarò a Monopoli. Senti Vittorio, che ti chiedevo del Capodanno di Berlusconi? Capodanno? Sì, si parlava di, come sempre, noi abbiamo un tono un po' da amici miei nelle battute che si fanno l'uno con l'altro, che io e lui siamo come luoghi da abitare invece che da abitare, quindi sì, questa è la differenza. Quelle cose che ho raccontato sono battute divertenti, e mi ha detto allora una cosa, altra rivelazione, che lui per Natale si era confessato, aveva fatto la comunione. Io non so se sia vero o se era una battuta, ma se non avendo peccati, altro che quelli, insomma, mi pare non gravissimi, di carne, guardano la sfera amorosa, si è confessato. E raccontare come aveva fatto le vacanze, e il 31, tra l'altro, io non ho fatto nulla di quello che mi può essere attribuito, cioè sono stato in casa da solo a guardare la televisione, ho visto, mi ha detto, i miei programmi, le mie reti, sì, e basta. Questa cosa mi è venuta in mente perché mi hanno fatto fare il pezzo sul giornale su D'Alema e St. Moritz. Certo. Io concludo dicendo, uno va a St. Moritz e sembrerebbe essere Berlusconi, invece Berlusconi sta a casa, e l'altro che dovrebbe andare in luoghi forse meno lussuosamente privilegiati, anche se uno poi va dove gli pare, ma non è che ho condannato D'Alema, va ancora così un po' ingenuamente a St. Moritz. Fosse stato a casa sua come Berlusconi non sarebbe stato beccato da signorina. Senti, ma non hai, quando ti ha raccontato questa cosa di aver passato Capodanno da solo a casa guardando i programmi Mediaset, non ti è venuto un po' di tristezza, no? No, perché anche in questo siamo simili. Io odio i capodanni più di ogni altra festa e li passo sempre in automobile. Da molti anni io, quando ricevo gli inviti per andare alle feste con 7, 6, 5, 4 brindisi, telefono a questi coglioni che rompono le palle con le loro cene di mezzanotte, le loro cagate noiose come la morte, faccio così: mi invitano a Positano, per esempio, io sono a Roma, parto alle 11 da Roma, così a mezzanotte sono in mezzo all'autostrada, in quei 10 minuti non c'è nessuno, è sublime. Poi arrivo a luna, quando la festa ormai è finita, rompo più i coglioni con i brindisi e saluto le persone che mi aspettavano. Quindi l'idea che lui, nella sua maturità, abbia capito che nulla è meglio di starsene tranquilli in casa, magari la festa la fai tre giorni dopo con chi pare a te, senza l'obbligo. Perché cos'è che rende negativa quella festa? Che è obbligatorio festeggiare. Mentre invece l'idea della macchina è fantastica, la trovo favolosa. L'idea io della macchina. 10 anni che faccio questo, l'ultima volta il Positano, la volta precedente ero a Ferrara, mi invitano a Modena a vedere una collezione di quadri. Sono partito alle 11:30 e a mezzanotte in punto ero al Tedo, ovvero tra, insomma, quindi al Tedo non passava nessuno. Tutto fermo. La storia di Berlusconi e delle donne di sinistra, com'è secondo te questa? Sarà vera, credo, anche perché immagino che le donne di sinistra vogliano fare quella famosa frase della Bindi, io non sono delle donne a sua disposizione, è una frase che è ideologica, manca la risposta di Berlusconi, per fortuna, meno male, mancava la risposta finale. Infatti quando gli abbiamo fatto sapere la cosa della HAC, che l'avrebbe baciato e abbracciato, ha detto: io sono pronto a salvare, questo non lo sa nessuno, lo dico a te adesso, sono pronto a salvare i colibrì, ma non anche se non vengo baciato dalla HAC, va bene lo stesso, insomma, cioè non ha dimostrato. Vabbè, insomma, immagino che il bacio è abituato ad altri baci, insomma, no? No, no, ma non tanto per l'età, perché le donne di sinistra fanno scopate ideologiche, o hanno la perversione di scopare con una destra perché lo fanno, come dire, questo è come un brutto, quindi lo prendo come un animale, oppure stanno solo con uomini della loro parte, perché stare con quelli di destra vuol dire stare con gente che non ha capito i valori, quindi Berlusconi su questo a sinistra scoprirebbe poco, quindi essendo un intelligente non va a cercare un campo in cui rischierebbe di vedersele negate, insomma. No, beh, certo. Posso insegnare a voi che siete dei ragazzi: se una non ve la dà, è uguale, cercatene un'altra. Cioè, no, non c'è mai capitato. Ma non c'è mai capitato. Lo sappiamo benissimo. Che non c'è mai capitato. Lo sappiamo benissimo. Come non ti è mai capitato? Parenzo, adesso non fare la mia ultima massima che gli ho dato come massima di vita. Che massima gli hai dato? La massima cristiana: ama la prossima tua come te stesso. No, il prossimo è la prossima, quindi uno vada verso la prossima sereno e non stia in campi in cui rischia di vedersi. Ma non è fidanzato in questo momento? No, non è una cosa stabile, no. Non entro neanche, spero che non si fidanzi mai, c'è il fidanzamento già di per sé, no. Il matrimonio poi fidanzato. Vabbè, quello. Senti una cosa, ma è vero che sarà il primo ospite della tua nuova trasmissione? No, è vero che la prima trasmissione è su Dio, l'ho detto fin da subito. Beh, è vero che Berlusconi sarà il primo ospite? No, allora ho deciso di intervistare Fidel Castro, Gheddafi, Ahmadinejad e Berlusconi. Come fai, scusa? Fatte programme, diciamo. Vabbè, insomma, devi mettere in moto una task force tipo il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Mando Vulpio a intervistare Fidel Castro e sapremo se crede in Dio. Mando un altro a intervistare Ahmadinejad, intervisto su Dio. Cioè non intervisto sulla politica internazionale. No, quello l'ho capito. Dunque alla fine mi sa che dopo vari tentativi rimarrà solo Berlusconi, però, perché forse Gheddafi. Gheddafi a me risponde sicuramente. Sì, Gheddafi sì. Fidel Castro, Vittorio, scusa. Comunque, l'ipotesi, dico, sono dei nomi, ma l'ipotesi è verificare la presenza di Dio negli uomini che hanno il potere più forte nel mondo, insomma. Quindi il titolo della trasmissione l'hai deciso o no? Non ancora, però la prima puntata è Dio. È Dio. Ho i nomi delle puntate. Ospiti Berlusconi, Fidel Castro, no. Gheddafi. Sulla puntata su Dio, qui non c'ho il canovaccio, ma si va da Bob Dylan. Cioè sono tutti ospiti assoluti, no? Sì, no, certo. E tra le persone a cui si chiede con l'idea di Dio ci sono questi leader che ti ho detto. E quando si inizia? La data che io avevo immaginato era la prima settimana di marzo. Rai 1. Con i responsabili della Rai pare che abbiano indicato il 15 marzo. 15 marzo Rai 1? Dovrebbe essere Rai 1. Vabbè. Viva i colibrì. Diciamo che fino fino al 15 di gennaio sì. Non riprendo le riunioni perché ho parlato ovviamente con Masi, con Berlusconi, però la prima riunione della nuova per entrare nel programma la faccio il 15 gennaio, quindi quello che ti dico adesso sono ancora le cose che abbiamo discusso alla fine dell'anno scorso. Comunque in ogni caso io faccio adesso, voglio chiamare Rimoldi per questa storia dei colibri dei magistrati, cosa succede, cosa impedisce a Berlusconi di... Adesso lo prendiamo il numero di Rimoldi, benissimo. Ma io non ho capito una cosa, ma alla fine sti cazzi di colibri ci costano 40.000 euro? Ma lui mi ha detto, ma scusa, se, Vittorio, vuoi dire qualcosa a Parenzo che dice questo cazzo di colibrì o tratta i colibrì come una questione del cavolo? Ma l'immondizia, 40.000 euro per i colibrì ci costano. Non poteva appassionare neanche me a priori, no? Ma quando io ho fatto la battuta e ho visto che si è arrapato, ho pensato che la cosa era risolta. Ma come mai ha reagito sui colibrì? Come mai Berlusconi ha detto che è un animale meraviglioso e che lui ne conosce il canto, come scrivo oggi, se tu l'hai letto sul giornale, ne conosce il canto perché li sente ad Antigua. Ma è una cosa strepitosa. Era consapevole di cosa siano i colibrì. Va bene. È scandaloso che adesso dobbiamo pagare 40.000 euro per quattro uccelli. Io potrei fare lo scettico blu, ma quello che è interessante non è l'argomento in sé. Sì, è quello, è il fatto che non si possa intervenire. La difficoltà di risolverlo. Su questo sono d'accordo con te. La difficoltà è questo, che se fossi io sovrintendente di Trieste e avessi a Miramare, tra l'altro da Massimiliano andò in Messico, quindi l'elemento esotico di Miramare, la reggia di Massimiliano, è un elemento vitale, no? Se tu fossi il sovrintendente, avrei detto ce li teniamo qua, appunto, e basta, pago io. Non hanno i soldi. Ma vabbè, ma i soldi ce ne sono sempre. Sovrintendenti, fai una cosa di meno, vai a mettere in testa quando lo devono risparmiare. Sapessi come li buttano, non hai idea di come si buttano i soldi. Immagino. Quante stupidaggini vengono fatte, idiozie. Vabbè, Vittorio, buon viaggio. Un clima box, cioè una macchina di merda per salvare dei quadri che salverebbero lo stesso, costa anche 100.000 euro. Quindi uno prepara il clima box per i quadri, fai un clima box di meno e salvi i colibrì. Vabbè, buon viaggio, ciao caro. Pornuti incapaci, come sempre, banali. Come banali? Voi, come banali, incapaci? Hai parlato solo te, hai parlato. Perché ho cercato di stoppare le vostre idiozie. Ma no, noi chiediamo, siamo qui. Ma noi siamo qui. Era più intelligente quando stava con me, stava più vicino a me, aveva subito capito l'importanza dei colibrì. No, ma è infatti su no, questa stanno sulle balle sti colibrì. Ma perché ti stanno sulle balle? Non ho capito. Mi stanno sulle balle perché non ci si può occupare di problemi dell'uccello. 40.000 euro per salvare quattro colibrì che in Italia non crescono neanche perché li hanno importati, hanno importato un problema in più, che siano in Honduras i colibrì, chi se ne frega di 40.000 euro. Beh, però non è un ragionamento peregrino, Vittorio, cerca di stroncarlo in maniera senza dargli dello stronzo. No, ma non lo posso anche, perché qui l'argomento non è che costino, possono anche non costare niente, possono anche trovare un privato che si rimette. Qui il problema è che non li vogliono tenere in una riserva, cioè in un parco pubblico. Siccome sono un dono di uno Stato, li puoi tenere benissimo, perché in quei parchi pubblici normalmente fanno orripilanti panchine, arredi urbani. No, ma su questo ha ragione Sgarbi. Una volta che ce li siamo presi, bisogna mollare i quattrini e tenere. Ma non li vogliamo! Ma a Trieste c'è la bolla, i colibrì hanno freddo a Trieste. Capra! Hanno trovato un habitat. Chiamate Rimoli, così spiega. Va bene, adesso lo chiamiamo. Grazie Vittorio, grazie. Giornale Radio 800 24 00 24, dopo. E a questa volta me la paghi cara, io divento come una zanzara. Questa volta me la paghi cara, io divento come una zanzara. Zanzara, la zanzara, zanzara. Ti tormenterò. Eccoci qui, caro Parenzo. In molti hanno invocato l'intervento dell'ambulanza per Sgarbi in stile Renato Zero. Ecco qua. L'ambulanza va mentre la città finalmente sa che mostro sei. Va bene, però con Sgarbi non si può chiamare l'ambulanza, no, non esageriamo, non si può chiamare l'ambulanza. È pericoloso per i medici che lo vanno a soccorrere. Non è molto igienico. No. E andiamo a sentire i titoli del TG3. Napolitano apre le celebrazioni dell'Unità d'Italia. Un monito alla Lega. Chi è al governo? Rispetti il tricolore. Bossi replica, troppo centralismo non si festeggia se non c'è il federalismo. E su Radio Padania si sfoga il popolo leghista. A livelli record la disoccupazione giovanile, quasi un giovane su tre non trova lavoro, è il dato più alto dal 2004. Palazzo Chigi smentisce, nessun contrasto tra Berlusconi e Tremonti. I futuristi sì a un governo guidato dal superministro. L'appello di Bersani, unire tutte le opposizioni per cambiare l'agenda del paese. Veltroni, mai chiesto, un congresso anticipato. Rivolta in Algeria per l'aumento del prezzo degli alimentari. Violenti scontri nella capitale, sospeso il campionato di calcio. Disordini anche in Tunisia. Delitto di Via Poma, ha chiesto l'ergastolo per Raniero Busco. Per l'accusa è stato lui ad uccidere, 20 anni fa, la fidanzata Simonetta Cesaroni. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Quando il giorno scivola via, si svegliano per me. Quando tutto sembra poesia, la cruda verità. Le zanzare di casa mia mi adorano perché... Siamo qui alla Zanzara, 800240024. Ti rendi conto, hai sentito i titoli del TG3, Parenzo? Sì, non parla dei colibrì, del dramma colibrì, come mai? Beh, perché sono notizie che solo noi possiamo avere e non si occupano dei problemi reali del paese. I problemi reali del paese sono anche quelli della tenuta di Miramare a Trieste, museo, non so come si chiami, con i suoi colibrì e dell'interessamento di Berlusconi per i colibrì, semplicemente perché Berlusconni ha i colibrì ad antico, sia chiaro, non credo che sia appassionato della materia. Tu dici conflitto di interessi. Sì, un uccello ad persona, diciamo. È una forma di uccello ad persona. Però la cosa incredibile nel titolo del TG3 è il fatto che i futuristi, i cosiddetti futuristi, che poi sarebbero i finiani, cosa vogliono? Tremonti premi, cioè pur di abbattere Berlusconi ipotizzano, provocano, lanciano l'idea di Tremonti premier. Ma cosa significa? Bocchino, per esempio, Bocchino è tornato a parlare, era anche lui non so dove, ai Caraibi, alle Maldive, non so dove, è tornato e dice Tremonti premier per governo contro crisi. Ma come, voi criticate Tremonti perché non ha fatto la politica economica giusta, eccetera eccetera? Tremonti è alleato della Lega che voi non sopportate, lo volete premier? Beh, è una cosa pazzesca. Sì, questo è abbastanza pazzesco. Dai, su, è una cosa che non ha senso. Puro tatticismo, puro tatticismo. Sentite. È assai probabile, come dicono tutti i sondaggi univocamente, che ci sarebbero due diverse maggioranze a Camera e Senato e questo potrebbe aprire la strada ad un governo di convergenze più ampie, centrato ovviamente sulla crisi economica, e chi meglio di Tremonti può presiedere un governo del genere. Se mi guardi, ti giuro, mi confondi, ti sento respirare, chiudo gli occhi, mi illudo di volare, ma voli solo. Lo stesso Urso, oggi un altro dei futuristi, ha detto sì, Tremonti andrebbe bene, però dovrebbe un po' cambiare la linea di politica economica. Va bene, e sempre della serie Bocchino, beh, mandiamo la sigla a questo punto, no? La sigla di Bocchino, va bene, non può mancare, via. Il sesso è bello, è piacevole, si può fare, ma si può pure non restare incinta. Vicino con quel cognome, con quel cognome dovrebbe essere più prudente. Bocchino, Berlusconi farà cantare Biancofiore agli ex AN, si rivolge a Pionati, sentite. Non c'è più quel partito, a tal punto che Berlusconi ha deciso di cancellarne il nome, sta facendo il concorso internazionale di idee per trovare il nome. I Popolari, che a te piacerà moltissimo, sarà adattissimo a te. Io voglio vedere i miei amici provenienti come me dal MSI e da AN sventolare la bandiera con scritto I Popolari, poi gli faranno cantare pure Biancofiore, non so che cosa accadrà. Volevate entrare il PPE pure voi. Rispostina di Pionati, avete sentito alla fine di questo audio, E poi questo ha ragione però Rutte, ma sì, ma non è il nome l'importante, non è che i popolari secondo Berlusconi l'ha preso dai nipotini, non è che da un fumetto o da una fiction, non so da che cosa, da una sorta esatto, di ma dimostra che quando uno continua a cambiare nome a un partito mancano le idee, mancano le... questo è perché uno solo perché cambia il nome a un partito, scusa, sempre in continuazione, ma questo vale anche per la sinistra, eh? Sì, sì, no, certo, sì. Certo, no, anch'io non amo molto questi cambiamenti continui di nome. Bocchino, Rutelli sempre contro Berlusconi, la Santanchè prima contro e poi a favore. Rutelli si è candidato sì, contro sì. Berlusconi ed è oggi contro Berlusconi, sì. In un'altra coalizione ma contro sì. Berlusconi. La Santanchè si è candidata contro Berlusconi con un programma diverso da quello di Berlusconi ed oggi per conto di Berlusconi si occupa dell'attuazione del programma che ha contestato. E tu come Rutelli sei stato eletto? Con Rutelli che non ha mai con detto chi? Rutelli non ha mai detto di Berlusconi le sconcerie che la Santanchè ha detto di Berlusconi. E questo è Bocchino. Santanchè. No, sulla Santanchè non c'è dubbio. Santanchè, forza Silvio, nome del partito. Ma secondo me il concorso internazionale delle idee di cui parlava prima Bocchino si è già concluso. Sì. Comunque, Santanchè. A me non appassiona molto il cambiamento del nome, anche se magari si potranno trovare dei nomi migliori. Avevo chiosato dicendo Forza Silvio. Le zanzare di casa mia si nutrono di me quando il giorno scivola. La cura Ferrando, i troschisti. Congresso nazionale del Partito Comunista Lavoratori in corso a Rimini, attenzione. Marco Ferrando, mitico. Ancora? Nazionalizzare la Fiat. Casa mia mi adorano perché sono pazze del mio sorriso. I cittadini italiani la Fiat l'hanno già comprata, cioè l'hanno già comprata con decenni e decenni di elargizioni pubbliche. La nazionalizzazione sarebbe la restituzione alla società di quello che la società ha già versato a vantaggio dei profitti privati della Fiat. E poi la ripartizione internazionale, mondiale del lavoro. Lavoro per tutti, basta ripartirlo bene. Per quale ragione non bisognerebbe impegnarsi a livello europeo, se non internazionale, per una riduzione dell'orario di lavoro che garantisca una ripartizione del lavoro nell'industria automobilistica? C'è meno lavoro? Benissimo. Il meno lavoro lo si dà a tutti attraverso una ripartizione razionale, in modo che nessuno sia privato del lavoro. Questa non è male, la pianificazione internazionale del lavoro nelle fabbriche di auto. Cioè dovrebbero mettersi insieme tutti i produttori mondiali di auto per ripartire il lavoro. Ma io guarda, quando sento parlare del congresso dei trotschisti, non sai come dire che oggi è come dire, guarda Parenzo, stiamo seguendo il congresso dei fenici o degli assiro-babilonesi. Cioè, capisci che c'è, voglio dire... Ma senti Ferrando però scatenato sul palco, che al confronto Vendola è un oratore comprensibilissimo, insomma, è uno concreto, pragmatico. Insomma, quando parla di cose concrete. Senti Ferrando, uno qualsiasi, non lo so, anche Vendola sottoposto a Obama. La sinistra cosiddetta radicale è giunta a salutare testualmente come nuova speranza per l'umanità, per citare le parole alate di Nicky Vendola, il presidente della più grande potenza imperialista in declino e la sua politica di salvataggio dei banchieri, confermando anche così, al di là delle parole, la propria subordinazione al capitalismo internazionale. Vendola subordinato al capitalismo internazionale. Bellissimo. Poi il berlusconismo, megalomania cesarista con contorno di prostitute. Qui in realtà Ferrando si accoda un po' ad una scuola di pensiero. Sentiamo. Non ci sono più ambulanze a Rimini. Cioè con un fenomeno anomalo e spurio della vita politica borghese, un impasto di familismo, aziendalismo, spirito di clan, megalomania cesarista, col contorno pittoresco di faccendieri e prostituzioni di alto borgo, che ha rappresentato e rappresenta un tratto atipico della politica europea e della storia italiana del dopoguerra. E chiusura anche in spagnolo, Che se vacas todos. Tratto atipico della politica europea, meraviglioso. Che se vacas todos, Berlusconi e tutti gli altri. Non so perché chiude così Ferrando. Senti. perché la cacciata di Berlusconi si trasformi nella, nella cacciata delle classi dirigenti del paese, dei loro partiti, delle loro istituzioni, a favore di un governo dei lavoratori. Che se vayan todos, che se ne vadano tutti, recitava il 14 dicembre in piazza uno struscione studentesco a Roma, riprendendo la nota parola d'ordine della sollevazione argentina del 2001. Mi confondi, ti sento respirare. E poi l'unico orizzonte quale può essere per il partito trotskista dei lavoratori? La rivoluzione socialista internazionale. Noi pensiamo che la rivoluzione socialista internazionale sia l'unico orizzonte realistico di progresso. E noi siamo orgogliosi di appartenere a quella corrente rivoluzionaria internazionale che non solo non si è mai arresa e non si arrende alle regole del mondo del capitale, ma le vuole rovesciare. E vabbè, naturalmente un ascoltatore ci segnala che è il castello di Miramare, ma noi sappiamo che c'è il castello di Miramare, non so esattamente se quello che ospiti i colibrì sia un museo, uno zoo, un centro speciale, eccetera, eccetera. Di questo che parlavamo, 800 24 00 24, la questione del tricolore, dei 150 anni, il monito di Napolitano, ne avete già sentito parlare durante il nostro giornale radio, durante i titoli del TG3, andiamo oltre, ascoltatori. Alessandro dalla Spezia, buonasera. Buonasera, la volevo ringraziare soprattutto per il, volevo dire di rimanere così, provocatore e stimolatore di menti. Certo, mi sono sentito mezza trasmissione, mi rendo conto che cavolo, l'Italia ormai vive solo di parole e di pochi fatti. Il primo è quel povero Sgarbi, che io vorrei essere tanto come lui, potrei voler bestemmiare alla radio come fa lui. No, non ha bestemmiato, Sgarbi non ha bestemmiato. No, mi scusi la parola, ha ragione. Cioè, imprecare come fa lui e anche agitarmi come fa lui. Il problema è che lui ha dei risultati, perché non so quali. Noi facendo così non li raggiungeremo mai, anzi. Se facessi una cosa del genere, lei mi prenderebbe per stupi. Bisogna sapere, vuol dire, Sgarbi è evidente che è capace anche. Non abbiamo bisogno più di quei personaggi, abbiamo bisogno veramente neanche di Ferrero, di Ferraro, come si chiama, non so più neanche i nomi dei politici. Veramente. Vabbè, ma nessuno dice che c'è bisogno di Ferrando, per fortuna, Alessandro. No, lo dico in senso generale, così, in senso proprio così. Vabbè, a livello di fatto. Comunque, ringrazio. Grazie, Mario da Verona. Mario da Verona, ciao. Buonasera. Sì, buonasera. Dica. Senta, io sentendo per l'ennesima volta quel signore, è uno pseudonimo chiaramente, di Sgarbi, la pressione comincia a salirmi, perché io odio i cafoni e i maleducati. Sì. E lui è, non so, è quotato come uno molto intelligente, però parlando con quel linguaggio, a mio avviso, dimostra di essere veramente un imbecille, uso lo suo stesso termine. Ecco, e mi dà molto fastidio che tutte le cose che tira lui sembrano di vitale importanza per l'Italia. E soprattutto quello che più mi ha dato fastidio questa sera è che lui si permetta di denigrare in questo modo la magistratura. Sia ben chiaro che a me della magistratura non me ne frega un cavolo, però che lui si permetta lui se l'è presa con quei magistrati che si interessano e che aprono inchieste sui colibrì. Molti ci segnalano, ma i magistrati devono per forza aprire un'inchiesta, Cruciani, quando c'è un esposto, una denuncia, Cruciani, eccetera eccetera. Cruciani, Sgarbi, come lei, come me, non sa il motivo per il quale il magistrato ha aperto l'indagine, quindi prima di dare quei giudizi molto pesanti, perché insomma, ripeto, si dimostra un gran cafone, un maleducato. Va bene, d'accordo. Dovrebbe avere il buon senso di conoscere le cose. Va bene, d'accordo. Ecco. Mario, peccato, posso dire solo un'ultimissima roba, visto che insomma a questo punto qua mi piace. Dica un'ultimissima roba. Come dice Sgarbi, ecco, uso la vostra radio, Sgarbi, vai a farti fottere. Vabbè, Mario, però adesso va bene, va bene. Grazie, tutto, va bene tutto, per carità, però non esageriamo, perché non è che può diventare un già Sgarbi dice la sua in un modo spesso insomma, con le sue parole, col linguaggio che conosciamo. Se ci si mettono pure l'ascoltatore è finita. Sì, ma lì infatti la parolaccia di Sgarbi non è una parolaccia che vanno dette difesa. Anche le parolacce, e Sgarbi in certo modo le sa dire, insomma, diciamo. Segnalo intanto una morte del tortore decimate, c'è una moria di uccelli a Faenza, questo segnalo. Guarda che non sottovalutare. No, tu ormai vedo che ti occupi anche tu, sei appassionato al tema degli uccelli. No, me non me ne frega niente dei colibrì di Trieste, non me ne può fregare di meno. Questo sia chiaro. Dopodiché è anche vero che se ce li siamo presi, poi bisogna mantenerli sti colibrì. Ma chi ti pare? gli uccelli dell'Honduras, 40.000 euro. Ho capito, d'accordo, ma se ce li siamo presi, impegni, ministri, sottosegretari, per portarli qui, c'è una struttura, allora chiudiamo tutto a questo punto. Che c'è un'ecatombe di tortore. Ho capito, ma è molto più importante, per esempio, dare i soldi per mantenere bene i colibrì a Trieste piuttosto che darli magari per sovvenzionare qualche film inutile del Ministero dei Beni Culturali. Io darei a qualche cassa integrato anziché ma ai basta colibrì. Con questa demagogia dei cassi integrati, dai, su. Colibrì. Ma a parte gliene diamo un sacco di soldi ai cassi integrati. Sempre troppo borsa, pochi. Borsa. Non c'è limite alla tua voglia di cucina orientale. Vieni al Wok Sushi, l'unico locale al mondo con tutta la cucina a vista. Pesce e carne grigliata, gelato artigianale, oltre 60 specialità, buffet a volontà, a prezzo fisso. Pranzo 10,90 euro, cena 15,90 euro. Prodotti freschi e genuini, in un'atmosfera esotica. Il vero ed originale ristorante Wok Sushi, a Cadoneghe di Padova e a Preganziol di Treviso. Non temiamo confronto. Scopri la qualità. Ma io non mi pongo più problema perché non ci vado proprio nei ristoranti cinesi. Sono tornato in un locale che ho inaugurato 5 anni fa e da 5 anni che non c'entravo più, sono andato a vedere come funzionava. Quante volte viene all'anno? Una volta al mese? Ah no, 2-3 volte all'anno. Questo ristoratore è da 24 anni in Italia, ha 3 figli nati qui che parlano veneto, studiano qui, ma soprattutto ricordiamolo, ha gestito per 15 anni il Bar Borsa di Padova. Nel suo locale cinese l'aperitivo di benvenuto è lo spritz, cioè tanto per capirci. Questo ristorante ha fatto gli accordi con i nostri agricoltori, per cui è tutta materia prima dei nostri agricoltori. Allora, senta, bisogna bastonare ma anche valorizzare chi poi fa il serio. Menù fisso, mi pranzo 10,90 e cena 15,90. Però bevante escluso. L'ultimo dell'anno, ma era il primo dell'anno, alle 7 di sera, e tutti erano chiusi in giro. Zaia e l'epopea del Wok Sushi. 800 24 00 24, può un leghista andare a mangiare in un ristorante cinese? Sì, ma vero, forte. I colibrì e Zaia che va a mangiare al ristorante cinese. È più affascinante il colibrì, guarda. Sì? Pensa te, no, però è un tema politico effettivamente questo, perché tu sottolinei un comportamento distonico rispetto a delle promesse o a delle dichiarazioni fatte, quindi è vero, sì, questione politica. Paolo da Roma, prego. Buonasera. Buonasera, dica. Oh, non mi tagli, la prego. No, Paolo, lo dice preventivamente. Faccio appello alla sua sicura educazione, quindi non mi taglierà. No, perché è una sua abitudine spesso tagliare. Quando è il caso lo faccio. I suoi ascoltatori quando qualcosa lei non la gradisce. No, non è così. No. In radio. Ma le faccio parlare. Poi la faccio parlare. In radio. Fa come i politici in televisione. No, Paolo, caro Paolo, in radio sì, non vige. Non vige la democrazia. Sì, nella sua radio. Nella mia radio, ma in generale. Non vige la democrazia, vige la dittatura più ferrea. Cioè, che è quella del conduttore che dice. Sicura e certa educazione, lei non mi taglierà, ne sono certo. Non la taglierò. Volevo dirle che a suo tempo io già la criticavo nel suo modo di portare avanti questa trasmissione. Vabbè, adesso però non restiamo su questo, Paolo, sennò ci annoiamo. No, innanzitutto volevo dire, la devo appellare dottore o signore? Ancora non l'ho capito. Ma faccia come crede, Paolo, non faccia lo spiritoso. Dipende dal titolo di studio, perché magari. No, io sono per abolire il valore legale del titolo di studio, per cui figuriamoci. Non è importante, quindi la posso chiamare anche signor. Sì, anche Giuseppe. Ecco, lo sa perché le dico, gli ho fatto notare, poi gli farò la vera domanda, adesso le faccio una premessa. Perché lei, ripeto, è abituato a trattare male gli ascoltatori e invece poi si prostra di fronte a soggetti sì, come Sgarbi. Sono così, come Sgarbi. Sono così, sono così, sono un servo, sono un servo. No, quello che sono, io non glielo sto dicendo, lo sta dicendo lei. Appunto, me lo dico da solo. Allora sta dicendo lei. Più di questo, più di questo. Dico semplicemente che una persona come Sgarbi, lei vorrebbe chiamarlo d'ambulanza, ma Sgarbi dovrebbe ormai arrivare alla morgue e portarselo via. La morgue addirittura, beh Paolo, la morte non si ha, fare, la morte non si augura a nessuno, abbia pazienza. L'abbiamo, l'abbiamo capito tutti che col suo modo di fare Sgarbi ci sta tirando dentro un'infinità di soldi, la RAI, la Radio Televisione Italiana e forse anche voi stasera, chissà quanto lo, paga, quanto lo pagano. Un sacco di soldi, Parenzo, quanti soldi abbiamo tirato per fuori? Per questa sua, non lo so voi, ma la Radio Televisione Italiana, per questa sua teatralità. Sì. Sarebbe bene la Rai televisione spendere soldi per teatranti più acculturati. Sì, vabbè, questo lo decide la Rai, che poi lei è padrone di pensarla Sgarbi, come vuole. Che poi Sgarbi con la sua volgarità, i suoi coglioni, i suoi cazzi in bocca, mi comincia Calma. A mettere dei dubbi, mi comincia a mettere dei dubbi pure sulle sue tendenze sessuali. Comunque mettiamo da parte vabbè, lasciamo da perdere. Non ne vale per non ne vale lo che vuole. Sì. Volevo farle invece una lei, domanda. Paolo, è come cosa, no? È come non mi faccia paragone. No, un attimo solo, vabbè, non è che adesso non si può interrompere, però non vuole fare un monologo assoluto come uno come una tanti altri che no mi sembra un ragionamento no il suo elementare no sì d'accordo ma Parenzo mi appello a te come l'altro giorno Borghezio che diceva con ha detto tutto con massimo rispetto della magistratura dei signori adesso lei mi vuole io non l'ho offesa lei perché mi vuole paragonare a Borghezio no ma era un modo di ragionare vabbè ma lei, sì. Per carità non voglio paragonarla a Borghezio ma la cosa cruciale lei mi ha tenuto un quarto al telefono il prima di parlare con lei stava ho capito Paolo è tre minuti che sta parlando ha detto che Sgarbi deve morire che io sono un cretino abbia pazienza ma no ma adesso sto scherzando su Paolo gli ha detto questo gli ha detto Sgarbi e lei non ha ribattuto no ma che devo ribattere gli ha detto deficienza lei non gli ha detto ma lei niente. Ma lei la teatralità la conosce o no la conosce il gioco delle parti il gioco delle parti lo conosce o no cosa lei è una persona intelligente conosce il gioco delle parti lascia perdere e allora se lo conosce non dica fregnacce su Paolo ma il gioco delle andiamo parti. Avanti ma il gioco delle parti che vuol dire che io mi faccio andiamo avanti andiamo vabbè, avanti comunque, andiamo avanti non era questo il motivo per il quale vi ho telefonato non ne vale la pena appunto semplicemente di quella storia del caporale ecco la domanda che sì, ecco, il caporale maggiore che è morto in Afghanistan voi che ne pensate o meglio gli ascoltatori che ne pensano è quello da considerarsi un eroe oppure no? Ma io la parola alla eroe la parola mi aspetto una risposta appunto io rispondo subito grazie Paolo ma sa, è uno che faceva il suo mestiere perché ormai i soldati sono professionisti in quel mestiere ci sta anche di morire punto io mi fermo qui Parenzo? Così. Ma è indubbiamente così cioè, è uno dei rischi di quel mestiere fine Alice da Milano buonasera buonasera lapidari siamo lapidari su questo buonasera poi altro discorso è il litigio assurdo che c'è tra una parte dei militari e la russa perché non si è mai vista una cosa di questo tipo con la russa che sostiene che si è trattato di un agguato comunque ma di una saperlo, di uno scontro di più i militari che sono lì no? Mentre i militari dicono che si è trattato di un cecchino lui lamenta una scarsa comunicazione da parte dei militari nei suoi confronti il generale Camponini risponde sui giornali cose incredibili. Alice, dica. Buonasera. Io volevo riagganciarmi al discorso sui pettegolezzi di Signorini su D'Alema di ieri. Dica. Secondo me è normalissimo. Con lo stipendio di un parlamentare si può andare tranquillamente a St. Moritz, a Cortina. Cioè ci sono andata anch'io, non è niente di strano. Però... Sì, diciamo che nell'immaginario popolare St. Moritz, che comunque a ragione lei è una località accessibile a molte persone ormai, pensi che ci devo andare anch'io, mi avevano proposto di andare a St. Moritz a Capodanno, poi non ci sono andato perché per vari motivi, ma è una località accessibile a un sacco di gente, lei su questo ha ragione, diciamo che nell'immaginario popolare St. Moritz è andato a Barisoni a St. Moritz per esempio a Capodanno, per cui... Però c'è questa cosa, adesso oggi sul Corriere c'era anche un articolo sulla Cortellesi che guadagna 65.000 euro a serata. Appuntata. Per ma lì Mediaset si assume la responsabilità di pagare 65. Qual è il problema? Sì, non ho capito. Ma questo è appunto. Ci sono articoli problema... anche su Marchionne che pare che guadagni, potrebbe guadagnare in stock option 100 milioni di euro. Sì. Come 6.000 e tot operai, allora qual è il punto? No, il punto è che molti pensano che essere di sinistra vuol dire essere masochisti, guadagnare poco, stare fuori dal mercato, stare fuori dalla competizione, essere contro l'impresa. Invece non è vero, cioè secondo me, a parte troschisti, diciamo. No, certo, però, certo. No, ma su questo lei ha perfettamente ragione. E quindi c'è un ma, ed è quello che ho detto ieri, Parenzo non è d'accordo, lo sappiamo, ed è il fatto che se uno va a St. Moritz, e ripeto, solo per la questione dell'immagine, per quello che St. Moritz significa nell'immaginario popolare, solo per questo, se uno va in vacanza a St. Moritz, poi torna in Italia e dice che la gente non arriva alla fine del mese, è un disastro, è l'economia allo sfacelo, insomma, voglio dire, un minimo di... Sì, è vero che una cosa non esclude l'altra, cioè che la fotografia dell'Italia sia quella del declino economico, non c'è dubbio, lo dicono gli analisti, basta leggere il Corriere della Sera Economia, cioè qualcuno lo si dice in continuazione. Che poi per qualcuno le cose vadano meglio, specie chi ha stipendio fisso come D'Alema, è chiaro, cioè, non mi pare una cosa in contraddizione. Sì, però essere di sinistra non vuol dire personalmente andare in giro in gramaglia, vuol dire cercare di portare avanti un sistema di regole, fare delle leggi che cercano di abbassare queste disparità, diciamo, attraverso le tasse, ma non facendo guadagnare poco quelli di sinistra, insomma. Brava. No, brava. Ma dice, ma il suo ragionamento non fa una grinza. Grazie. Prego, Andrea da Modena, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Io chiamavo, ho provato alcune sere a intervenire, ma sono arrivato un po' lungo sugli interventi di altri ospiti. Chiamavo perché poi, come molti ascoltatori che hanno chiamato anche oggi, per segnalare che ultimamente, negli ultimi tre mesi, diciamo, il programma è molto scaduto. Andrea, però adesso dobbiamo intavolare una discussione su questo. Possiamo intavolarlo perché non è molto interessante. Parliamo di cose più concrete. Per lei forse perché vada sui siti, scriva al Sole 24 Ore, faccia come vuole, però comunque mi dica una cosa sul programma. Anche sentire al Sole 24 Ore, anche il Sole 24 Ore. Che per esempio la settimana scorsa, quando era stato sostituito da un altro del Sole 24, diciamo che la qualità del programma ne ha molto. Oh, lei ha respirato aria nuova. Sì, benissimo. Oh, e allora perché ci chiama? Stasera perché ci chiama? Alcuni discorsi che vengono fatti nelle ultime puntate. Sì. Prima quando c'è stato Terese, ma adesso anche con Parenzo, sono veramente di un trash. Senti, Parenzo, rispondi. Cercare il trash per fare puntate dedicate a questo, insomma. Sì, vabbè. Che ha finito? Che bisogna dire? Ha finito la sua reprimenda? Sì, questa qua bisogna prendere atto del parere. Ah sì, infatti prendiamo atto. Umilmente. Sì. Prendiamo atto e poi dopodiché, una volta che abbiamo preso atto, basta, finita lì. Prendiamo atto. Andrea, prendiamo atto. Registriamo. Che dobbiamo fare? Mi dica. No. Mi dimetto. Si può anche cercare di cambiare, non è che... Questo perché lo dice lei? Ma forse la mia non è l'unica voce fuori dal coro. Ma sicuramente... Perché forse sta diventando più un coro... La mia, anche se sentiva tutti gli interventi di elogio che ci sono stati tra l'altro conduttore... rispetto ai dorotei che preferiscono osannare chi in quel momento lì ha allo scettro. Non lo so, guardi Andrea, sono logiche che non mi interessano francamente, cioè, considero tutto normale, nella normalità più assoluta, e non mi curo di queste cose. Va bene, che vuole fare, è così, la devo scontentare, ma è così. Come ho detto prima, caro Parenzo, qui c'è una persona che è stata a St. Moritz a Capodanno, che si chiama Sebastiano Barisoli, che ci ha raggiunto. Eccoci qui, Sebastiano. No, mi ha avvisato il mio cuoco Michele, che stavi parlando di quello che è successo a Capodanno. No, a parte gli scherzi. Ma quanto hai parlato era, tu no, a Capodanno? No, no, allora, no, la località quanto... era la molto più proletaria località del Maloia, così ti preciso, ti correggo. A notte contesto. Quanto? A notte? È un luogo accessibile. Se vuoi sapere di D'Alema, anche se ritengo anch'io che sia una polemica un po' così un po' speciosa, un po' pelosa, però va bene perché il comunista con la carta di credito, champagne, maglioncino, già l'ha detto il tuo premier. È un po' diversa, è anche mio, ci mancherebbe, mio. Però è un po' diversa la cosa. D'Alema è stato visto e notato, non perché si siano scatenati i cronisti in giro per St. Moritz, uno è libero di andare a ospite ad amici dove vuole, ma perché ha avuto la bellissima idea di andare a prendersi un aperitivo al Suvretta, che è l'albergo. Dunque, non era ospite del Suvretta, no, non questo, era in albergo al Suvretta. Obiettivamente non te lo so dire. Questo è il punto, l'aperitivo però se tu ti fai vedere costerà così 20 euro, 25 euro, sì, 30. Ma poi soprattutto è il luogo più chic, più caro, Samaden, quello dei russi impellicciati, insomma. Hai capito, non, è questo forse che, senza voler mettere nessun perbenismo borghese, però è questo che forse cioè poteva evitare di farsi vedere il Suvretta. Se c'è... Io ricordo, ma scusi, ma io non ho capito. Paolo Pietrangeli cantava anche l'operaio vuole il figlio dottore, e anche D'Alema può andare a bersi l'aperitivo. Ma è liberissimo. Se poi però nasce una polemica, diciamo, è questo: se un leader politico va in discoteca, si fa fotografare con ballerine cubiste, poi si può aspettare. Quello è diverso perché lì da Giuva si incazza, e quindi è diverso. E giustamente si sarebbe arrabbiata la signora Giuva. E qui il problema è che il PD non è il partito dei. Questo è l'equivoco: non è il partito dei fenici, trotschisti. Però scusami, però c'è oggi Bersani. È il partito che carica, che candida Colaninno, amici miei, che certo, candida a Milano. E anche Boccuzzi, anche Boccuzzi l'operaio. E anche Galearo. E anche Galearo che poi ha rotto. Ha diritto ad andare a St. Moritz, Boccuzzi ad esempio, no? Sì, sì, ma per carità, io però c'è un altro punto. Però Parenzo, non ti puoi sorprendere delle contestazioni, cioè voglio dire, è inimmaginabile. Ma, un politico ha diritto anche ad andare in un locale a bere, a ballare e divertirsi cioè, con la oggi, ragazza, però si viene beccato. Oggi, come si chiama? Bersani, il segretario del Partito Democratico, per rispondere a Veltroni che aveva detto convochiamo un nuovo congresso, se eccetera, eccetera, dice guardate che un'idea del genere. Per un'idea del genere vi aspettano gli operai davanti ai cancelli della Fiat con i forconi. Cioè c'è comunque un'anima ancora, il Partito Democratico sente di avere ancora un'anima operaista vicina agli operai, e uno dei leader principali, tra l'altro molto vicino a Bersani, va a prendere l'aperitivo al Suvretta. Vabbè, no, tutto normale. Tutto normale, vabbè. Cioè, voglio dire, ma sì, ma perché un partito che parla, che vorrebbe, bisogna vedere a chi parla, questa è la prima domanda. Vabbè. Ma il blocco sociale di riferimento, come si sarebbe detto una volta, non è più, non è la classe operaia, non è, non sono gli operai però, della, insomma, del bisognerebbe dirlo in maniera più esplicita, forse, allora. Ma è abbastanza chiaro, mi pare. Beh, insomma, non è proprio così. Va bene, grazie. Comunque, Sebastiano. vi lascio le vostre cose, torno a lavorare. Suvretta, l'albergo di D'Alema. Io torno a lavorare. Non so se in realtà è stato lì a prendere solo l'aperitivo oppure ha soggiornato. Ieri ci dicevano che ha soggiornato qualcuno. Vabbè, Vito da Pistoia, buonasera, 800 24 00 24. Buonasera, dottor Cusciani, buonasera. Dica. Dopo che abbiamo appurato dove D'Alema ha preso l'aperitivo. Sì. È una cosa importante questa, no? Giustamente. Beh, insomma, siccome c'è stata una polemica sulle foto di D'Alema a St. Moritz, non è che me le sono inventate io le polemiche. No, allora, giochiamo un po' su queste polemiche. Vito, non è che possiamo passare tutta la trasmissione, però a discutere di che cosa parliamo, perché sennò veramente è una follia. Naturalmente giochiamo su questa polemica, su un gossip tirato fuori da quel baciascarpe dipendente del signor Berlusconi. Però e poi sarebbe Signorini, sempre detto con molta, da lei con molta, con garbo, molto garbo, senza offesa per me. Guardi, non è mica il solo. No, no, per carità. Dicono anche di me che sono un baciascarpe, un lecca. Effettivamente sono su quella strada, certo. Però sono quelle strade, piccoli fiori che crescono, Beh, certo, ma guardi, ci sono giornali che non nomino, che lo scrivono da così, sì, ogni insomma, tanto, di quello, ma insomma, è un paio d'anni, per cui. Cruciani, lei è grande, vaccinato, fa quello che pare, che vi pare. Meno male. E ritiene giusto, ci mancherebbe. Allora, il grosso urbito del cretino rispondo. Appunto, sì, è come no, è come certe trasmissioni. Mafioso, criminale, ladro. Posso parlare? Posso parlare? No, dopo. Sì, volevo fare un ragionamento, era un'altra cosa. Lei... No, insomma, quello che volevo dire è questo qui. Lei no? Ha detto, io sono un servo, sono avviato a fare il servo, eccetera. E poi dice, vabbè, non è di questo che volevo parlare. Vabbè, ho capito, ma... Intanto però ha detto che sono un servo, pagato da delogare. Vabbè, comunque... Comunque, quello che volevo dire... Sì, appunto, quello che volevo dire è un'altra cosa. Quello che volevo dire è questo qui. Lei, giustamente, giocando appunto su questo discorso di D'Alema, no? Però io mi chiedevo, allora, cosa bisognerebbe dire di tutti quei parlamentari? Gli dico, no, così, è una cosa che mi è venuta in mente ora che ascoltavo la trasmissione, anzi ieri, perché parlano della famiglia, eccetera, eccetera, e poi sono divorziati, hanno l'amante. Sì. Ecco, questa non è una contraddizione, cioè, è solo la contraddizione quella lì. Ma no, ma chi l'ha detto? Ma secondo me, tra l'altro, non è nemmeno una contraddizione. Abbia pazienza, non è che si possono fare i paragoni tra le contraddizioni. No, questo sì, questo va bene. Ah, e un'altra cosa, l'ultima, dica. Signor Sgarbi. Poverino, io mi è anche simpatico, devo dire, però se continua così l'infarto. Quando si arrabbia, dice lei, eh. No, io ho sentito, ma ragazzi, questo poverino esce di testa. Poverino. Lei dice si arrabbia troppo, no? Ma siccome è una vita che fa così, evidentemente può resistere, insomma. Sì, chiami, su quello sono d'accordo. Però un'altra cosa, finisco. Sarebbe bene che anche i magistrati indagassero sulle presenze dei parlamentari europei. Quando lui ha eletto parlamentare europeo, ha fatto due giorni, due visite e soldi lì, anche quelli, non so chi le paga. Che dice? Ma che cosa? Che visite dice? No, che dico? Quando lui è stato parlamentare europeo. Ma chi? Ah, Sgarbi. Napoli. Ah, Sgarbi. No, Sgarbi non credo sia stato parlamentare europeo. Credo male. Vabbè, insomma, che ha fatto? Ci è andato due o tre volte. Stop. Ah, lei dice non è uno, ma insomma Sgarbi da questo punto di vista non c'è l'obbligo di frequenza, no? All'università. Beh, sì, insomma, se uno viene eletto al Parlamento Europeo non ci va mai qualche problema, però c'è. Però non ricordo lo score di presenza di Sgarbi al Parlamento Europeo. Grazie Vito, 800. Buon anno, arrivederci. Arrivederci. Eccoci qui allora con Erminio Boso, buonasera. Saluto lei e tutti gli ascoltatori di Radio 24. Come va, signor Boso? Ciao, ma io sono a quota 1500, sta piovendo. Quota 1500 dove esattamente? Ma io vivo in Baita, nel Trentino, nella conca del Tesino. E che lei sta, chi sta meglio di lei? Insomma, nessuno. Ah, nessuno. Nessuno. Lei è stato pure parlamentare europeo, adesso è consigliere comunale di minoranza a Borgo Valsugana. Certo. Una caduta rovinosa, come mai? Ma chi l'ha detto? No, beh, noi della Lega ci mettiamo a disposizione del movimento. Ce l'hanno fatta fuori e lei non batte un ciglio, insomma, questa è la sostanza. No. Loro mi hanno detto ti candidi a Borgo, io sono andato a candidarmi a Borgo. Beh, ho capito, però passare da un ruolo come del parlamentare europeo. Non c'entra niente questo. Niente, con la lotta. Io sono al servizio della Lega. Sì, è al servizio della Lega, perché qualsiasi cosa le dicono di fare, lei la fa. Certo. Una volta qualcuno disse, forse Salvini, per Bossi mi farei, se dicesse che mi devo buttare da una parte mi butterei, anche lei è così? Certo. Al momento noi siamo dei soldati, sì. E si obbedisce a un comandante. Sì, qualsiasi cosa dica il comandante. Certo. O c'è un limite? Il comandante si chiama Umberto Bossi, quello che lui decide noi si fa. Scusi Boso, secondo lei il suo punto di riferimento è il capo dello Stato o Bossi? Bossi. Bossi. Cioè, né il presidente del Consiglio, né il capo dello Stato, né nessun altro. Né nessun altro. E il suo punto di riferimento è la Costituzione italiana o, che ne so, lo Statuto della Lega o Bossi? Per me vale di più lo Statuto della Lega e il regolamento della Lega. Cioè Bossi perché vale più della Costituzione, per esempio, quello che dice Bossi ha più valore di quello che... Guardate, voi continuate a parlare di Costituzione e sì. Non c'è più grande calpestio della Costituzione quotidianamente. Sì. Sia dalla magistratura sia da qualche buon pensante. Però Boso, questo lasciamo perdere la violazione quotidiana della Costituzione. Cioè, la cosa che voglio capire è, per lei una parola di Bossi vale più della Costituzione? Certo. Beh, come certo? Certo. È proprio così automatico. Quando Bossi mi ha detto facciamo il movimento indipendentista, io l'ho fatto. Ma è mica più indipendentista Bossi, è federalista. Almeno ma così sono io indipendentista, io rimango. Il responsabile del movimento indipendentista della Lega. Che esiste ancora? Certo, siamo una maggioranza nella Lega. Ma come una maggioranza? Siamo la maggioranza. Ma no, sì. Ma se Calderoni è lì che sta trattando sul federalismo, Boso, su, dai. Non ti hanno informato lì dalla manca dove stai, che aspetta, Boso. Ma vede, scendi dalla montagna, Boso. La truppa, signori miei, voi state parlando di generali, io vi sto parlando di truppa. Ah, ho capito. Lei dice l'elettorato, la truppa, cioè certo, l'elettorato. Certo, della certo. Senta, signor Boso, ma quello che le voglio chiedere è, a lei dei 150 anni dell'Unità d'Italia, le importa qualcosa lì dalla Marga? Niente, anche perché è un falso storico. L'Unità d'Italia sono 150 anni, allora o il falso storico, l'Unità d'Italia o la Grande Guerra. Vabbè, adesso lasciamo perdere la data, insomma. No, fermo. Cioè, i 150 anni sono un falso storico. Un falso storico. Vabbè, la Grande Guerra, il 15-18, c'ha 90 anni che è terminata, 92. Sì. E allora? No, e allora mi dovete spiegare se il Trentino Alto Adige e il Venezia Giulia e Trieste fanno parte dell'ultima guerra di annessione, scusi, o no? No, vabbè, ma possiamo, al di là delle date, al di là delle date. Di storia con Boso, no, prego, però Boso, al, la storia d'Italia. No, Boso, al di là delle date, delle celebrazioni, a lei interessa qualcosa? Non cioè... le frega niente perché è un fatto storico. Cosa devo festeggiare? Una cosa che è stata venduta in bugia. Scusate, e il tricolore? Ma il tricolore, ragazzi, allora noi dobbiamo ricordarsi che l'arma dei carabinieri ha avuto la prima medaglia d'oro. Un certo Scappaccino è stato fucilato perché non ha voluto abbracciare il tricolore. Allora, se questo colore è stato usato per mandare a morte tanta gioventù, poi di conseguenza lo Stato italiano non ha mai tenuto in considerazione i familiari delle vabbè, famiglie. Adesso lasciamo perdere, aspetta, a lei sente la bandiera del suo paese qual è? La bandiera del mio paese è il sole delle Alpi. È il sole delle Alpi. Cioè, a lei del tricolore non gliene frega niente. Niente. E cosa ci farebbe col tricolore? Ma proprio niente. Anche perché chi lo sta osannando sono i primi che l'hanno calpestato. Io mi ricordo le grandi manifestazioni di sinistra quando si bruciava il tricolore, ve lo state dimenticando? Sì, ma quello che c'entra, vabbè, male se bruciavano il tricolore. Come male? Come malissimo male? Che bruciavano ma il tricolore. Ma bruciano le bandiere, ma stiamo scherzando. Appunto, male, non si bruciano le bandiere, appunto. Come non si bruciano le bandiere? Cioè lei si lo brucierebbe? Sì, le bandiere. Lei lo brucierebbe il tricolore? Sì. Perché no? A che pro? Perché no? No, dovete spiegarmi perché non dovrei bruciarlo. Ma come, scusi, Boso, abbia pazienza. Adesso chiamatemi un attimo. Dove si trova esattamente? No, non arrivano lì sopra le ambulanze. Non arrivano le ambulanze lì. Come si chiama il paese esattamente dove si trova lei, Boso? Pieve Tesino, vabbè. Certo. Vabbè, e sapete chi ha dato i natali Pieve Tesino? No, non lo so. E allora, vedete, siete un po' sbaldati nella storia d'Italia. Sì, noi molto. Si chiama Alcide De Gasperi. Guardate voi cosa che sapete della storia della bandiera. Vabbè, certo. Noto leghista Alcide De Gasperi. Non sapete nemmeno che è nato Alcide De Gasperi? Non me lo ricordo che era. Non me lo ricordo. Non lo ricordate. Non lo sapete. Non lo sapevo che era nato a Pieve Tesino. Bravi, allora, non lo sapevo. Lo ammetto. Ammetto la mia ignoranza. Un attimo, c'è la pubblicità. Torniamo subito. 800 24 00 24. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Le zanzare di casa mia mi adorano perché... Vabbè, sono le 20 in punto, caro Parenzo, in collegamento da Roma, in collegamento da Pieve Tesino, che è il paese natale anche del Cide De Gasperi, vero Boso? Certo. Provincia di Trento. Erminio Boso era soprannominato una volta Obelix. Certo. E diede un calcio di sedere a Gabi. I soggetti politici che bloccheranno il sistema romano. Chi sarebbero? I Galli, chi sarebbero? Non ho capito. Certo. Obelix, però in realtà lei era chiamato Obelix per la sua corporatura, per la sua piuttosto massiccia. Obelix è quello dei Galli, che cos'è? Un magro? No. Lei quanto pesa, signor Boso? Ma io peso 100 kg. 100, vabbè, anche dimagrito, no? Prima pesava di più, sbaglio, no? Sempre stato il mio peso forma. 100 kg, così, secchi. Ma tu sai, Giuseppe, che è stata messa all'asta la scarpa con cui Boso diede un calcio nel sedere a Vittorio Sgarbi nel 93. Come? Un calcio nel sedere a Sgarbi, sì. Boso? Certo. Ah, quando sì, ricordo. Quando lui offese il mio capo, io le diedi un calcio e le dissi considerati schiaffeggiato, perché hai la faccia come il culo. Questo Boso a Sgarbi in Parlamento? Certo. Quando lei era, che cos'era, deputato? Che era? No, io ero senatore. Era senatore. E che ci faceva alla Camera? Si andava a fare le votazioni. Ah, Vabbè, comunque lei diede un calcio a Vittorio Sgarbi, quella scarpa che fine ha fatto? L'ho data ai giovani di Bergamo, sì, che alla festa della Lega l'hanno messa ad asta e si sono fatti due soldini. Giusto, beh, tutti vogliono il gadget. Tutto, casa, è tutto giusto. Finito qua, è tutto finito. Ma c'era anche quella storia dei vagoni separati per gli extracomunitari. No, non c'ero io. No, lei non c'entra niente in quella storia. Non c'entro niente. No, vabbè, magari ne ha pensato qualcun'altra, no? Ma io sono quello che avevo chiesto che per controllare il movimento extracomunitario si mettevano sul ghiacciaio del Monte Bianco, così il riflesso del bianco e nero si poteva vedere. Ecco, una cosa moderata anche questa. Ho le impronte dei piedi, perché ho veramente visto che la criminalità si cancella le impronte digitali, sì, c'era da controllare il planteare che negli stati più avanzati del mondo, sì, viene usato per il controllo delle persone. No, ma com'era la storia del ghiacciaio? Non l'ho capita bene, scusi. La storia del ghiacciaio? No, ma non mi è chiaro. Poi, come è noto, queste proposte non sono passate. Raccolta, li metti su un ghiacciaio e da là non scappa nessuno perché il bianco e il nero lo distingui. No, ma, mi scusi, ma chi è che dovrebbe andare in un centro di raccolta? Scusi, Boso. Ma tutta la criminalità organizzata di colore. Tutta la criminalità organizzata di colore la portiamo in un ghiacciaio, mi scusi. Certo. Ma, certo. Ma adesso questa qua è una proposta che lei fece quando era giovane, adesso non credo che ci creda. No, la penso adesso come l'ho proposta in Senato quando è stato proposto. No, cioè no. Lei ha fatto una proposta di legge in Senato, esiste una carta, una cosa scritta. No. Certo, l'ho messa nero su bianco come parlamentare. No, cioè la criminalità nera organizzata, che poi non so cosa significa esattamente, dovrebbe essere presa, portata in un ghiacciaio. Certo. Ho capito, ma come... Ma come dice certo? Non può dire certo, capisci che non si può dire certo, non è che discutere di una cosa così. Ma com'è possibile una cosa del genere? Cioè com'è possibile poi materialmente organizzare un tipo di struttura che nel ghiaccio? Come fanno a campare? Come fai a seguire una... Beh, le porti su da mangiare, li metti dentro nel reticolato, li tieni sotto controllo, invece che mantenerli gratis li metti là a spaccare un po' di ghiaccio, no? Ma prima o poi crepano. Oh. Ma basta che tu le dia le scarpe per rimanere asciutto. Dove dormono? Nel ghiacciaio? Dove dormono? Basta portarle sulla brandina, ragazzi, una tenda. Ce ne sono tanti che vivono nelle tende. Per carità, certo. No, è una cosa normale. Vabbè, comunque poi la recuperiamo questa proposta di legge perché fa parte di una proposta interessante. Senta, Boso, per concludere, ma lei che dice che il corpaccione della Lega poi alla fine è a favore del separatismo, no? Io ci posso anche credere. Allora, perché i leader, per esempio, quando Calderoli o altri dicono noi rispettiamo il capo dello Stato, la Costituzione, fanno una finta. State vendendo un falso. Io non ho detto che non rispetto il capo dello Stato. Io vi ho detto solo che per me vale più la parola di Bossi che quella del capo dello Stato. Vabbè, quello uno lei preferisce Bossi allora, al capo dello non Stato. Non vuol dire che io non rispetto il capo dello Stato. Certo. Voi state vendendo bugie. No, vabbè, non voglio dire questo. Lei ha detto che la parola di Bossi vale più di quella di Napolitano, d'accordo. Certo. E vale anche più della Costituzione, lei ha detto, però la parola di Bossi. Vabbè, quello già è diverso, insomma, come dire, non è la stessa cosa. Scusatemi una cosa. Ecco, ma secondo lei Napolitano è il capo di uno Stato, non è il capo del suo Stato? No, lei non è italiano, no? No. E che c'è scritto sul passaporto? È una vergogna essere italiani in questo momento. Ma lei che cosa ha sul passaporto? Ci sono i magistrati della Corte Costituzionale che dovrebbero soltanto dire se è o no costituzionalmente valido. Cosa? Quando entrano nel merito di una legge e ne fanno un'aggiuntiva. Vabbè, adesso lasciamo perdere la Corte Costituzionale. Ma non ci lasciamo perdere. No, scusi, Boso, lei sul passaporto che c'è scritto? Voi non mi prendete per i coglioni, ragazzi. No, ma noi perché? Allora, no. Voi volete tenervi la vostra linea come fanno le Iene, tenete la vostra linea. No, però se io vi dico una cosa, è questa, vi faccio un ragionamento, il perché. No, ma ho capito, Boso, sono però... sono ancora pazzo, no, sono non una persona che usa quello che la mamma le ha fatto, la testa. No, ho capito, però, Boso, abbia pazienza. Io la cosa che voglio capire da lei, sul passaporto, lei che c'ha scritto, Unione Europea Repubblica Italiana, o no? Sì, beh, ma per questo non vuol mica dire che io devo mettere piangere quando sento l'inno d'Italia, Ragazzi, quando sento non è obbligatorio. Della mia baita c'ho la bandiera della Padania. E dove arriva la Padania? La Padania. Dove arriva? I confini quali sarebbero? Beh, innanzitutto tutto il nord Italia. Tutto il nord. dalla, fino vicino a Roma, dal Piemonte fino al Friuli, poi andando giù vicino da a Roma, Toscana, De Marche, l'Umbria, l'Umbria più o meno come diceva Parenzo, come diceva, come diceva Borghezio, la linea gotica. Dove si ferma sta Padania? Ma si ferma là prima di Roma, 100 chilometri in su prima di Roma, 100 chilometri in su, vabbè. Vabbè, caro Bosso. Ma quindi lei non deve neanche usufruire dei servizi dello Stato italiano, allora? Ha capito, Bosso? Cioè, no, che non si sente italiano, Erminio. Di, okay. Parenzo, di. No, volevo dire a Bosso che quindi se lui non si sente italiano non deve neanche usufruire dei servizi che lo Stato, quei pochi servizi. Non riesco a capire cosa sta dicendo. Allora, questo. Vabbè, è il solito problema. Lei non dovrebbe nemmeno usufruire dei servizi dello Stato italiano. Non ma io li ho pagati, non ragazzi. Sentendosi italiano. No, no, io li ho pagati. Io non è che faccio l'estero comunitario che vengo a prendermi un servizio che non è mio. Io ho pagato tasse per 60 anni. Sì. Per cui io pago ciò che ho diritto di avere. Sì. Cari signori miei, che poi io non mi sento italiano, è un altro discorso. Io ho pagato, non chiedo quello che non ho pagato, io non chiedo gratis niente. Io quello che ho di diritto come uomo. Ho capito. Senta, ma allora, comunque Bossi prima di tutto viene, prima certo. Di tutto, prima di tutto, prima di qualsiasi altro. E di Berlusconi si fida, Bosso? Berlusconi, lei si fida o no? Ma a me di Berlusconi non mi fido, no. Per carità. Non mi sono mai fidato di Berlusconi. Però siete alleati da un po' di anni, Bosso. Ma questo, ma, ragazzi, allora se siamo alleati, un altro discorso, qua c'è sotto un progetto. Eccoci, quando c'è stata la sfiducia Berlusconi, c'era la firma di Bossi sopra, la mia sotto, quella d'Arema a fianco alla mia e quella di Buttiglione a fianco a quella questo di Bossi. Questo nel 94. Certo. Io sono convinto ancora di quello, punto. Ho capito, ma però Bossi c'ha un'altra idea. Ma Bossi può cambiare idea, io non cambio idea. Lei non ha cambiato idea, benissimo, vabbè, abbiamo capito. Ma glielo dice questo a Bossi, ci parla ogni tanto. Certo. Dice? Che dice a Bossi? Non fidarti di Berlusconi, quello è un mafioso, che dice lei a Bossi? Io gliele dico, a Bossi le dico tutto quello che penso. E lui che dice? Lui mi dice, Boso, intanto andiamo avanti, abbiamo detto che facciamo l'accordo anche col diavolo, pur da raggiungere i cambiamenti in Italia. Benissimo, e Berlusconi sarebbe il diavolo in questo caso? Ma Berlusconi è il diavolo, come che può essere il diavolo della sinistra? Certo che forse peggio di Berlusconi c'è Casini. Vabbè, per lei Casini cos'è? Beh, Casini insieme a Fini, quando che al sud ci hanno fatto bocciare la devolution, sono loro che ci ha fatto perdere il referendum. Sì, poi gente. Vabbè, grazie Bosso, buona serata. Saluto. Buona serata da Pieve Tesino, pubblicità, torniamo subito. Le zanzare di casa. Siamo qui alle 20:10, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara. Detto questo, Bosso è pur sempre un consigliere comunale in un piccolo paesino, non è che sia un uomo di spicco della Lega, certo. Però ha rappresentato per diverso tempo una delle icone della Lega, no? Erminio Bosso, detto Obelix. E io sono sicuro che qualche parola d'ordine dello stesso Bosso ancora viene seguita dal popolo leghista, insomma, come atteggiamento, no? Credo anch'io che non sia un caso isolato o di folklore, come magari qualche radioascoltatore potrebbe immaginare dopo questa intervista che hai fatto. Francesco da Lecce, buonasera, 800 24 00 24, questa è inconfondibilmente la Zanzara. Prego. Buonasera Cruciani. Dica. Allora, volevo dire una prima cosa su Bosso, che mi sembra un po' scandaloso che poi certa gente finisca in Parlamento. Per le idee, per la cultura, per tutto, però purtroppo se ha il suo elettorato. La seconda cosa invece è che da quando è iniziata la trasmissione, che non facciamo altro che sentire un po' di terminologia che secondo me non andrebbe utilizzata, poi soprattutto da parte di Sgarbi, che alla fine viene fuori in Rai, su Mediaset, e ogni volta è un'uscita sempre condita da tutta questa terminologia abbastanza, abbastanza volgare, se vogliamo. In sostanza, a lei non piace il linguaggio di Sgarbi, questo è quello che ci vuole dire, Francesco. Pensavo anche a Morgan, che in un'intervista ha detto una cosettina ed è stato bandito dalla Rai, mentre Sgarbi ha la possibilità invece di andare in giro a dire tutto quello che vuole senza nessun tipo di... Sì, bisogna vedere quello che dirà Sgarbi in questo programma, non penso che si esprimerà in, si esprimerà in questo modo, però lei dice scusami, siccome... è dalle 18.30 che qua sentiamo, sentiamo tutto quello che secondo me anche in un determinato orario non deve sentire. Abbiamo sentito di tutto, da stronzo a cazzo in culo a tutto. No, fermo, fermo, no, no, questo no, questo no. A me però mi ferma. Questo no, no, ma questo no, non, è, no, non lo sto fermando. Sto dicendo che le parolacce di Sgarbi o le parole forti di Sgarbi vanno sempre inquadrate nei discorsi che lui fa, non è che ci sono parole dette in modo gratuito. Cioè, E beh, insomma, purtroppo sì, possiamo inquadrare tutto quello che vogliamo, ma non è una terminologia da utilizzare. Vabbè, insomma, lei non gradisce questa terminologia, ne prendiamo atto, siccome Sgarbi... Soprattutto da voi. Ma noi non c'entriamo niente, Francesco, ho capito, ma non è che... Sa, la zanzara è pure... Per questo una... mi chiedo il perché viene ancora... Viene ancora mandato in onda un intervento, visto che si sa che alla fine... Noi volevamo parlare, scusi un attimo, io ho chiamato Sgarbi, a parte che è spesso ospite qui alla Zanzara e lei se ci segue ma lo sa. Ma per carità di Dio. Lei lo sa, è una persona che apprezzo, che è una persona che è intelligente, una persona che certamente ha un sacco di difetti, ci piacciono ogni tanto le sue provocazioni, ci ha raccontato di un incontro con Berlusconi, cerchiamo di avere qualche piccola notiziola ogni tanto. Qualche piccola notizia. Abbiamo sdoganato tutto. Ho capito, ma c'è, volevo. Il sdoganato, volevo capire questa storia dei colibrì, ha capito? Questo è il punto fondamentale. Ma per carità, ho capito, però non è posso... il doc neanche. Non entro nel merito dell'intervento. Ho capito, però io poi non rispondo del fatto che Sgarbi fa un'intemerata contro i magistrati. Cioè, non è a quel punto. Ma sappiamo sempre che va a finire così, non lo mandiamo in onda alle 18.30. Ma lasci perdere le 18.30, non è che ci sono. La zanzara non è. Scusi. Va bene dire una... Ma che c'entra le 18.30? Scusi, che c'entra le 18.30? A quell'ora all'ascolto c'è... Chi c'è? Ci sono tante persone. Tante persone, tutte maggiorenni, adulte, vaccinate, insomma, Francesco. Anche minorenni ci saranno indubbiamente se capiscono una macchina. Ho capito, ci sono tanti minorenni, noi mettiamo sempre in mezzo i minorenni. Ci sono tanti casi, certo ci sarà qualcuno in macchina con dei bambini, con delle cose, ma insomma non è questo il punto, Francesco, abbia pazienza, non è una trasmissione per giovanissimi, ecco, magari... No, per carità, però può capitare anche di avere in macchina qualcuno. Ma non succede niente, perché facciamo una più grande di quello che è. Allora non deve bloccare me se le dico quello che ha detto. No, Sgarbi, ma io non sto... No, io non lo posso dire, Sgarbi. No, ma lei può dire quello che vuole. Bisogna sempre vedere il modo in cui lo si dice. Se lei ci riporta esattamente le parole di Sgarbi, le dico no, non c'è bisogno di ripetere, altrimenti commette lo stesso errore di Sgarbi. Mentre Sgarbi lo dice. No, io invece quello gliel'ho fatto notare, per il fatto che lei poi mi ha bloccato. Ma io ho capito. Sgarbi, innanzitutto perché quella frase è stato assolutamente bloccato. Ma questo no, è il problema. Innanzitutto perché quella frase che lei ha detto, nessuno l'ha pronunciata. La seconda frase che lei ha detto, io non lo ripeto. Insomma. No, ho capito, Francesco. E poi comunque non si, per rafforzare il suo ragionamento, se non si ripetono quelle parole è meglio, no? Certo. Altrimenti certo, se uno le ripete come stava facendo. Però uno... se ci mettiamo Sgarbi, ci mettiamo quest'altro, l'ultimo della Lega che parla. Ma qui parolacce non ne ha dette, tutto, cioè... parolacce non ne ha dette, Boso. No, ha detto follie. Ripetere, però. Ha detto follie, ma non parolacce. No, mi sembra. E forse è peggio ancora la registrazione. Che parolacce ha detto, scusi, Francesco? Che parola ha detto coglione poco fa. Vabbè, ho capito. Se ci mettiamo a discutere su coglione, è finito. Però uniamo insomma coglione a tutto il resto che viene detto. Vabbè, comunque, bene, insomma, è un appunto che di cui faccio tesoro. La ringrazio. Traffico. Le zanzare di casa di me, quando il giorno scivola via, si svegliano per me, quando tutto sembra... Un'agenzia ANSA, caro Parenzo, ci informa che a Radio Padania oggi, diretta dall'amico Salvini, è andato in onda una trasmissione sul 150° anniversario dell'Unità d'Italia e va in onda il dissenso leghista. Con il direttore Salvini che minimizza Napolitano alleato federalista. Va bene. 800240024 Fulvio ci chiama da Trieste, città di cui ci siamo occupati oggi per la vicenda dei colibrì. Buonasera. Pronto? Buonasera signor Fulvio. Dica. Io volevo dare il mio contributo su questa vicenda importantissima dei colibrì. Ma lei lo dice importantissima in senso ironico oppure ironico. No, nel senso, volevo spiegarvi un attimo perché è una situazione tipica italiana, nel senso che sono prima arrivati i colibrì e poi sono stati chiesti i finanziamenti. Sì. Nel senso che esisteva questo centro privato all'interno del castello di Miramare, sì, all'interno delle vecchie serre. A un certo punto questo centro si è fatto donare dal governo peruviano dei colibrì, sì, che sono stati definiti diplomatici, tra l'altro, sono dei diplomatici, no, quei colibrì. Come diplomatici? Poi è stato chiesto al ministero che aveva dato il benestare a un progetto, ma così, come dire, ci piace che arrivino i colibrì, e poi si chiedono migliaia di euro all'anno. Cioè, mi spieghi bene, come diplomatici, bellissimo, scusi, che c'entrano i diplomatici? No, no, esiste un documento del ministero peruviano, sì, del 2006, sì, che dice, si rammenta che il professor Rimoli dovrà necessariamente restare sempre vicino ai colibrì diplomatici in tutte le fasi del trasporto aereo. Ma perché ad colibrì? Eccezione quando devono rimanere nella stiva. Cioè hanno, lo status, ridicolo, di, cioè hanno lo status di diplomatico i colibrì? Hanno lo status di diplomatico. Però tutta questa storia nasce, arrivano prima i colibrì e poi in questo, da questo centro privato vengono chiesti i finanziamenti, per cui è fare cosa privata con denaro pubblico. Perché se li porti a casa la brambilla sti colibrì e non rompono le scatole, mamma mia. Mi sento malissimo, non so. Sì, sì, no, ma dice Parenzo, se li prende la brambilla e non rompono le scatole con questi colibrì. Però insomma, magari è una, siccome sono anche, è anche una specie rara, o sì, è rarissima, però tra l'altro mi chiedo perché un centro per la salvaguardia dei colibrì non possa essere fatto in Perù e deve essere fatto a Trieste. Vabbè, adesso lasciamo perdere per la salvaguardia del parmigiano, allora. Cioè, beh, lasciamo perdere quello che è stato fatto prima e perché è stato fatto, c'è, sì, tutta una storia che ha raccontato Striscia la Notizia negli anni scorsi, molto, molto appassionante, se vogliamo, con visite di ministri e sottosegretari italiani. Proprio in Perù, lasciamo perdere i motivi per cui questi colibrì sono arrivati. Fatto sta che ci sono, lei dice, l'hanno fatti arrivare senza avere stanziato prima i fondi per mantenerli, o sbaglio? Ma, sì, sì. Ma poi c'è questo problema della struttura abusiva, è vero? Ma è una struttura che è sorta all'interno di un parco, di un monumento nazionale, in sostanza, perché è un museo, sì, certo, certo, nazionale. E non è ben chiaro, è stata prima una struttura per le farfalle, e poi è cresciuta e poi si è installata là con la scusa dei colibrì, ecco. E dunque il punto di cui era preoccupato anche Gianni Letta con grande scorno e grande arrabbiatura di Vittorio Sgarbi è che questa struttura sarebbe abusiva. Va bene, Fulvio, grazie. Sì, il fatto che i colibrì siano qui, adesso la magistratura non so perché si muova. Una cosa pazzesca. No, ma è giusto. Poi ci hanno marciato bene, nel senso che hanno mosso Beppe Grillo, tutti i grillini, Sgarbi, tutti quanti, perché poi i colibrì fanno tenerezza, fossero stati maiali, nessuno si sarebbe mosso. Ecco. Va bene, grazie, grazie, strana, grazie. Ecco. Fabio da Verona, buonasera, 800 24 00 24, è la trasmissione che si occupa di colibrì, la Zanzara. Ciao Giuseppe, buonasera. Buonasera, io chiamavo perché intanto volevo farti complimenti per la trasmissione, sì, perché indipendentemente da quello che ha detto, mi sembra, Andrea. Sì, ma tanti, dica pure, Fabio. Indipendentemente dal fatto che dicono che sta scadendo, tu sei un ottimo provocatore, secondo me il fatto che comunque ti metti prima da una parte e poi dall'altra e provochi entrambe le parti, secondo me è un ottimo sistema per alimentare un po' le conversazioni. Va bene, diamoci, okay, da lei, via. Ok, ecco, io volevo commentare quello che ha detto riguardo ai colibrì. Allora, riguardo ai colibrì, io onestamente non sapevo di questa cosa specifica dei colibrì, però mi è sembrato assolutamente efficace il fatto che ci sia qualcuno che si occupa anche di queste cose, per cui la magistratura che si va a occupare non solamente dei problemi grossi ma anche dei problemi più piccoli, secondo me è più che lecito e più che apprezzabile il fatto che lo veniamo a sapere. Io non so quante persone sapessero che la magistratura si stesse occupando di colibrì, ma io non so nemmeno in che modo se ne stia occupando. Adesso chiamiamo il tizio di Trieste, così ce lo, sì, facciamo spiegare. A questo punto io non ho idea. A questo punto bisogna dirimere la questione sollevata da Sgarbi e posta addirittura da Gianni Letta. Dunque siamo qua ai massimi livelli. Tutto nasce, certo, dall'interesse di Berlusconi per i colibrì, perché ha i colibrì alle, dov'era? Alle Bermuda, dov'è? A Cosmo, sì, alle sue isole lì, detto, ad Antigua, vabbè. Dov'è? Non mi ad ricordo. Antigua, ad Antigua. Avendo questi colibrì, a un certo punto arriva Sgarbi, lo solletica su questo e lui si, no, si risveglia, trova improvvisamente, trova il prova interesse e dice che bisogna finanziare, promette al centro di al centro di Miramare il finanziamento. Pare che la questione sia complicata perché c'è un intervento della magistratura su cui Sgarbi si è molto arrabbiato oggi, dicendo che i magistrati non devono. Invece sembra giusto l'intervento della magistratura, anzi ti dico di più, bisognerebbe chiedere al nostro amico Barbato di fare subito un'interrogazione parlamentare sui colibrì. Cioè qui si sta veramente, che adesso non sono ironico, sono serissimo, ci vuole un'interrogazione parlamentare per capire come mai c'è questo interesse ad uccellum da parte del presidente Berlusconi diretto su una questione che riguarda dei colibrì che vivono in zone calde, in una zona come Trieste dove c'è la bora e fa freddo, e ora si stanziano 40.000 euro, così pare, per salvare quattro uccelli schifosi. Ma ti sembra normale? Adesso lascia perdere quattro uccelli schifosi, ma è una come dire, una no. specie, una specie. Ma che specie era? Ma chi se ne frega in Honduras? Ma chi se ne frega a Trieste? Tu, è come dire, voglio degli elefanti in pianura padana. Cioè, guarda che gli elefanti in pianura padana non ci sono. No, ma evidentemente a Trieste possono sopravvivere, altrimenti nessuno penserebbe di farli rimanere là. No, perché adesso rompono le balle, no? Perché stanno rompendo le scatole e rischiano di morire. Chi se ne frega? Vabbè, intanto cerchiamo di risolvere la questione. Stefano Rimoli, presidente del Centro Colibrì di Trieste, buonasera. Buonasera. Come a voi. Sta? Allora, questi colibrì innanzitutto possono sopravvivere a Trieste oppure no? Beh, diciamo che a Trieste è l'unico posto al mondo dove hanno trovato, diciamo, un luogo dove stare, riprodursi, ed è l'unico posto al mondo in cui esiste proprio una popolazione stabile di colibrì. Questo vuol dire genitori, figli e nipoti dal punto di vista atmosferico, dal punto di vista, diciamo, climatico, possono sopravvivere a Trieste? Sì, è accertato questo. Ma non è che abbiamo ricreato l'habitat, ovviamente abbiamo tutta una serie di tecnologie che ricreano l'ambiente tropicale, pensi addirittura che l'aria presente nelle serre dove vivono questi animali viene filtrata attraverso dei filtri classe 100 che sono quelli utilizzati dalle sale chirurgiche ospedaliere, tanto è la nostra attenzione. Ho capito, ma quanto ci costa tutto sta ambaradam per ricreare il clima tropicale per i colibrì? Quanto ci costa? Allora guardi, meno di un orto botanico di provincia. Attualmente noi abbiamo ricevuto in questi anni dal Ministero dell'Ambiente 40.000 euro all'anno, mentre l'orto botanico per esempio di Trieste ne costa 100.000, quindi per capire un attimino i costi. Abbiamo anche, diciamo che andiamo avanti, siamo in 10 ricercatori, alcuni di questi all'interno di cooperazioni con università italiane e straniere, sono ricercatori, zootecnisti, biologi e veterinari. Non solo italiani, ma anche colombiani, ecuatoriani e peruviani. Scusi un attimo, Rivoli. Mantenere dai matti, Cruciani, io ti assicuro sto andando ai matti. No, cioè, stiamo finanziando i colibrì. Ma io vado ai matti, colibrì a Trieste. Ma come dire la foca monaca? Come dire la foca monaca a Como? Ma dice come la foca monaca a Como? No, ho sentito, spiego subito il perché. Scusi, Rimoli, scusi un attimo, cerchiamo di chiarire una cosa agli ascoltatori. A noi contribuenti, mantenere i colibrì a Trieste all'anno quanto ci costa? Allora, tutto compreso, cioè il suo centro? Tutto compreso, cioè 100.000 euro all'anno, praticamente, no. Che è quanto costa l'orto botanico di Trieste, un quarto di quello che costano solo la riserva marina. Vabbè, comunque ci costa, lasci perdere i paragoni, ci costa 100.000 euro l'anno? Sì. 100.000 euro l'anno, benissimo. Allora, ma perché ce li siamo presi sti colibrì? Perché li abbiamo portati da Perù? Esatto. Le spiego perché. La comunità scientifica e l'autorità CITES del Sud America ci hanno chiesto di aprire delle riserve naturali in Sud America che noi abbiamo aperto. Quindi non è vero che noi operiamo solo a Trieste, noi operiamo principalmente in Sud America. Vabbè, è quello d'accordo, ma perché naturali. Questi qua li abbiamo però, portati a... Mi lascia dire, guardi, sono sintetico, però sì. È fondamentale, altrimenti non si capisce. Appunto. Il colibrì è come un alieno, cioè non si conosce nulla di questo animale. Se conosce l'animale, zitto. E non si conosce praticamente la sua fisiologia, è impossibile reintrodurlo e allevarlo nell'ambiente naturale. Ho capito, dunque l'avete portati a Trieste per studiarli, giusto? 5 università università e 5 centri di ricerca che in maniera anche gratuita collaborano per capire quelle che sono le condizioni in cui anche nutrizionali, alimentari, fisiologiche, che poi servono ai paesi sudamericani e alle organizzazioni ambientaliste per metterle in pratica nell'ambiente naturale. Benissimo, non si può fare lì in Perù tutto questo studio, Rivoli? Costerebbe circa 20 volte tanto, perché bisognerebbe realizzare gli stessi laboratori oggi presenti all'Università di Udine, all'Università di Camerino, e portare anche la TAC dell'Ospedale Maggiore Civile di Trieste, che ci permette di capire la glicemia. Infatti si dice che quando si riuscirà a capire i motivi glicemici si curerà il diabete, no? Hai capito? Che... Parenzo, porta a casa, su. Vado ai matti quando sento sta roba. Allora, Rimoli, una cosa sola. No, anzi, ci sono tante cose da chiedere, ma la cosa principale è questa. La magistratura adesso che c'entra dopo l'intervento di Berlusconi? Sgarbi era arrabbiatissimo. Perché la magistratura? No, la magistratura, poverina, non c'entra nulla. Le spiego, questi sono gli ultimi 80 colibrì ex situ del mondo in popolazione stabile, benissimo, di valore allora... inestimabile, e hanno cercato, con degli interessi che adesso non sto qui a polemizzare, di regalarli all'estero a società commerciali che gestiscono zoo all'estero, e ovviamente c'è stata una volontà di far chiudere il nostro centro. Non è che non è vero che la magistratura ha indagato, la forestale, la soprintendenza hanno detto che noi siamo, diciamo, non avendo una convenzione, perché la chiediamo da 10 anni, che stiamo occupando abusivamente il suolo pubblico, e quindi su questo hanno chiesto hanno messo sotto sequestro preventivo, sì. La magistratura, dopo 40 ore, poverina, ha dovuto firmare. Non è che se la soprintendenza, che è proprietaria del sito, gli ha dovuto firmare cosa? Mia, io sono abusivo, ma attenzione, i colibrì non sono sotto sequestro. Appunto. Attenzione, la validità scientifica del nostro istituto. Hanno sequestrato i colibrì, la magistratura ha sequestrato i colibrì, questa è la sostanza. Prego, mi scusi. La magistratura ha sequestrato i colibrì, questa è la sostanza. No, la magistratura non ha sequestrato i colibrì. La magistratura non ha avuto nulla che da dire né da indagare. E allora che ha messo sotto sequestro, scusi? Semplicemente ha accusato, dal punto di vista penale, ha messo sotto sequestro l'area, l'ambiente, non i colibrì, sottolineo. No, vabbè, ma certo, però la zona dove sono i colibrì. La zona dove sono i colibrì, ma attenzione, non per irregolarità relativamente all'operato scientifico o istituzione, semplicemente per occupazione abusiva di suolo pubblico. Cioè, dunque, i colibrì stanno in un posto abusivo, questa è la sostanza. Sì, ma è il ma è una cosa pazzesca, ma è una cosa pazzesca. I colibrì portati dal Perù in Italia sono in un luogo abusivo. Ma si rende conto della follia italiana? E dunque interviene la magistratura. Per questo, vede, io posso essere d'accordo con quell'ascoltatore e con quella persona che diceva: se uno mi dice meglio dare 100 colibrì, 100.000 euro ai colibrì o 100.000 euro ai bambini poveri, sono io il primo a dirlo, meglio darli. Vabbè, questo però è demagogia. Ma è ovvio, però. Se poi mi si dice che si fa questo accordo di cooperazione internazionale, questi colibrì nei documenti CITES, scritto colibrì diplomatico, pure. Non diplomatico, proprietà del governo italiano all'interno di un accordo di cooperazione internazionale. Colibrì diplomatico, sì. Ecco, un attimo solo, devo dare la borsa. Un attimo, Rimoli, resti con noi. Un attimo, Rimoli, si fermi un secondo. La borsa, torno tra un secondo. L'ambulanza va mentre la città finalmente sa che mostro sei. Tu pietà non hai. L'ambulanza va. Siamo qui, caro Parenzo, 20:33, 800 24 00 24. Io, scusi, signor Rivoli, presidente del Centro Colibrì di Trieste, io ho capito una cosa: esistono dei colibrì diplomatici che sono come dei colibrì con lo status di diplomatico, che c'hanno, comunque fanno parte di un accordo, per questo vengono chiamati diplomatici. Sì, sono definiti così semplicemente perché il governo del Sud America, alcuni governi del Sud America, il governo della Colombia, ha dichiarato, l'autorità scientifica CITES, che prima ancora del riscaldamento globale e della deforestazione, e il pericolo è la progressiva estinzione dei colibrì, perché dai colibrì dipende l'impollinazione dell'85% del Sud America. E che vuol dire diplomatici, scusi? No, e che sono all'interno di un accordo di cooperazione diplomatica internazionale, sì, dove i governi del Sud America hanno chiesto all'unico centro al mondo che è stato in grado di mantenere una popolazione stabile, sì, di colibrì, e cioè il centro di Trieste, e quindi al governo italiano, vabbè, ha chiesto di avviare questa, vabbè, operazione. Allora, Berlusconi, Berlusconi si è interessato dei colibrì perché ha i colibrì anche ad Antigua, giusto? Ah. E così mi ha detto che ovviamente lui ce li ha liberi ad Antigua. Ecco, ma Berlusconi, quando le ha parlato, beh certo ce li ha liberi, quando le ha parlato dei colibrì, Berlusconi, che voce aveva? Perché lei ha avuto una conversazione con Berlusconi su questo. Certamente, certamente. Cioè, tramite Sgarbi ha parlato con Berlusconi, che non è cosa da tutti i giorni, no? Naturalmente, sì. Rimoli. Sì, infatti sono veramente contento che certo, il presidente Berlusconi sia interessato al caso, sì, anche perché se non interveniva lui, gli interessi purtroppo clientelari che si erano formati certo, intorno a questi ultimi 80 colibrì esistenti al mondo, certo, sì, ma meno male, avrebbero fatto una bruttissima fine. Ecco, ho capito, ma Berlusconi cosa le ha detto al meno telefono? Meno male che sono solo 80, guarda, meno male che sono solo 80. Che le ha detto Berlusconi? Allora no, sentivo la voce in sottofondo. Allora, no, dicevo, Berlusconi mi ha detto che non devo più preoperarmi, che questa vergognosa operazione... Tutto risolto, come la spazzatura, tutto risolto. Ai danni, diciamo, ai danni dell'ambiente e dell'Italia che vedeva... ma chi sarebbe contro i colibrì? Chi sono i nemici dei colibrì? Scusi. Allora, no, le spiego, è molto semplice. Allora, al professor Giacomo Rossi, consulente scientifico del WWF Italia, al professor Piero Sus, Università di Udine, e così come da Beppe Grillo, da Altero Matteoli, sono tutti pro colibrì. Chi sono i nemici dei colibrì? Chi sono? No, in realtà è contro i colibrì soltanto quelle società private che vogliono questi animali di valore inestimabile, non per fare scienza, ricerca, ma per fare i quattrini, che non sarebbe una cosa negativa, a qualche zona del nord Europa, ecco, vabbè, insomma. Senta, allora Berlusconi l'ha promesso che questi nemici dei colibrì saranno sconfitti perché lui vuole intervenire dal punto di vista finanziario, gli ha promesso che questi soldi per mantenere questi colibrì arriveranno, giusto? Beh, diciamo, lui prima di tutto mi ha promesso il ripristino della legalità, che sta questo già. Ripristino della legalità, guarda che va addosso, ripristino della legalità per i colibrì, però dai, ma è tutto finito, su. Ha promesso il ripristino della legalità per i colibrì, vabbè, d'accordo. Però voglio dire, non dipende Mills e pensa ai colibrì, ma tutti rendi non dipende da lui, però mi scusi signor Rimoli, non dipende da lui perché la magistratura è intervenuta, c'è un sequestro di un'area, eccetera. Ma no, allora il sequestro c'è perché la soprintendenza, cioè lo Stato italiano, una parte dello Stato italiano ha detto stanno occupando abusivamente il sito. La soprintendenza chiede che non è vero che noi non siamo una società privata posta a cura di interessi. No, vabbè, ho capito, questa adesso è la controversia, non la voglio sapere, però voglio dire, il punto fondamentale è che c'è un intervento della magistratura. Oggi Gianni Letta, parlando al telefono con Vittorio Sgarbi, era molto preoccupato di questo, cioè perché parlando dicevano, ma hai visto i colibrì? Sì, Berlusconi si è mosso, però... Attenzione, ha detto Letta, c'è una questione più complicata, la magistratura, pure no, la prestigio. Guardi, allora io qui mi impegno formalmente davanti, così si impegni, stanno ascoltando, sì, a rassicurare, tranquillizzare. Rassicuriamo tutti, naturalmente. Dottor Letta, che i colibrì non sono sotto sequestro, la verità scientifica dell'ente non è sotto sequestro, sono sotto sequestro semplicemente il terreno demaniale, e che ovviamente nulla a che vedere col progetto scientifico e col fatto che i nostri ricercatori sono autorizzati. Però quello è un problema, però. Guarda, Cruciale, io chiedo alla magistratura è come se fosse sotto sequestro le infrastrutture dell'ospedale perché manca il contratto d'affitto. Ho capito, ma non è proprio il contratto d'affitto, un e la magistratura non ha più nulla. No, ma è così, però vabbè, non è una cosa da poco, bisogna risolvere mi questa mi questione. Letta, professore, faccia una grande cassa, se vuole vengo anch'io, ci metta dentro sti colibrì e li rispedisca dell'Honduras perché mi hanno rotto le palle. Io comprendo, cioè il mondo è bello, no, persone che io vado ai matti quando io sento questo, capito? Ma mi impazzisco. Se io io sono un soldato rispetto ma che soldato, parliamo di colibrì, ma lei si immagina, scusi un attimo per discutere con lei si immagina se questa roba l'avesse fatta Prodi? Sallusti il giorno dopo diceva 100.000 euro per salvare 40 uccelli, cioè qui stiamo parlando di questo, cioè stiamo parlando di 100.000 euro per 40 colibrì 80 che devono stare in Honduras e non rompere le palle qui da noi, no dai. Ma sono qui perché possono essere studiati. Signor, voglio fare solo una domanda. Non voglio, è ovvio che io sono l'oste che parlo del suo vino, del proprio vino, e quindi non sarei di parte. Però io voglio chiedere una cosa. Secondo lei è più giusto dire, vabbè, chiudiamo un centro perché con 100.000 euro all'anno fa un progetto condiviso da 5 stati, da 5 università, eccetera? O piuttosto mandiamo avanti, non so, magari, scusi se faccio paragoni, ma i paragoni secondo me è giusto farli, magari mandiamo avanti un orto botanico, magari mandiamo avanti un museo civico che costa 10 volte tanto. Allora no, i paragoni non bisogna farli, però c'è un sacco di gente, Rimoli, che ci scrive dicendo avete visto dove vanno a finire i soldi che poi spendiamo per l'università, per la ricerca, eccetera, eccetera, appunto, anche in questo tipo di Rimoli. Ma questo è un progetto universitario. Appunto, è di quello che stai dicendo. Questo appunto la dice lunga, ma la dice lunghissima che ti ho portato l'università sui colibrì, ma allora ma questo però che c'entra però questo Parenzo, i colibrì possono essere anche la famiglia presidenziale dell'Ecuador, il signor presidente della Repubblica dell'Ecuador ha scritto al Quirinale e il Quirinale, la signora Napolitano mi ha scritto, mi ha risposto pure. E così posso anche darvi questa esclusiva. Ci dia questa esclusiva, sì. Poi chi va sulla pagina approfondimenti del sito www. Sì, che è successo? Dunque abbiamo saputo una cosa, scusi un attimo Rimoli. Allora, lei ci sta dicendo che dei colibrì si è occupato anche Napolitano. La signora Napolitano? Clio Napolitano si è occupata di questa storia dei colibrì. Sì, c'è una lettera originale che ho pubblicato sul sito www.centrocolibri.com, nella pagina approfondimenti, dove praticamente il Presidente della Repubblica dell'Ecuador ha ringraziato il Quirinale e l'Italia perché i problemi dell'emergenza ambientale del Sud America e dell'Amazzonia potranno essere risolti con gli studi fatti dalle università di Udine, l'Università di Camerino, del centro dei colibrì, e ha comunicato che verrà in Italia appositamente, e questo è un grande ovviamente onore, per visitare il nostro centro e chiede ovviamente alla famiglia Napolitano di accompagnarli. Poi per l'amor del cielo hai capito Parenzo, cioè gli studi sui colibrì devono salvare il pianeta, questa è la sostanza, possono salvare il pianeta. L'ha detto Altero Matteoli, l'ha detto Beppe Grillo, l'ha detto la professora Margherita, ma peggio mi sento non prendetevela con me, chi c'è io, non mai io, lei è, come dire, è l'oste che serve il suo vino, come diceva lo stesso Rino. Io faccio il mio lavoro, lo faccio bene, lo faccio senza paga, insieme a altri 10 missionari, no, attenzione, missionari perché missionari, qualcosa guadagnerà, sennò come campa lei Rimoli, scusi, abbia pazienza. E lo so, è per quello che forse quando mi conoscono le persone si innamorano della mia iniziativa, perché ovviamente non si mandano avanti 10 persone con 40.000 euro all'anno, no? Ecco, per questo è la grande forza della nostra iniziativa, che noi andiamo avanti con progetti internazionali costando meno di un orto botanico di provincia. Va bene, d'accordo. Gli sperperi che ci sono in Italia, voglio dire, credo sia un bel esempio che ha messo insieme, ripeto, persone che vanno da tutti gli schieramenti politici. No, su questo non c'è dubbio, dato che Margherita Hack voleva baciare in fronte Berlusconi. Grazie, ecco, Rimoli, grazie. Dobbiamo andare avanti. 20:42, ascoltatori. Giovanni, provincia di Roma, buonasera. Sì, buonasera. Senta, Luciani, volevo dirle una cosa. Io sono completamente indignato dall'intervento del signor Boso prima. Che ha detto Boso? Ma questa cosa, questi allucinante questi discorsi che Ho capito, Boso è Boso, la pensa così, che devo fare? Ma lei cosa ne pensa? Secondo lei non pensa che Giovanni? Sono poi i nuovi fascisti. Beh, adesso non esagero. I leghisti, i nuovi fascisti, mi sembra una stupidaggine. Boso risponde di se stesso, mi sembra, non risponde della posizione ufficiale della Lega, insomma. Anche Bossi un po' di tempo fa diceva con la bandiera tricolore ci puliamo, eccetera, eccetera. Si ricorda? Come no? Certo. Allora, ricordo. Quindi vede che io un po' di tempo fa mi trovavo a Jesolo, avevo visto la macchina targata Roma e mi avevano accerchiato, Roma, queste cose. Io mi sembra un po' esagerata questa cosa, insomma, ecco, questa è la mia indignazione verso questi leghisti. Sì, però Boso non è la Lega, insomma, le voglio far presente questo. Ma lei pensa che Boso non sia la Lega? Io spero, insomma. insomma. No, io, poi vuol dire che nel passato o anche nel recente e anche nel presente la Lega abbia usato un linguaggio, usi ogni tanto un linguaggio molto duro su alcuni temi, non c'è dubbio, insomma, però beh, più, è convinto, più per propaganda che per altro poi. Ma guardi, ci pensi bene, perché secondo me non è proprio così. No, ma insomma io credo che Bosso non sia la Lega, poi detto questo, se nel retropensiero di Calderoli o di Bossi ci siano tutte le cose che dice Bosso, questo può anche essere, ma insomma non, ripeto, non credo che le parole che ha pronunciato prima Bosso rispecchino il pensiero dei dirigenti leghisti oggi, del gruppo dirigente della Lega. Massimo da Milano, anzi no, prima traffico, 800 24 0024, tra poco. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Allora, ultimo quarto d'ora di una zanzara che è partita da Vittorio Sgarbi, passata per Erminio Boso, ed è derapata e si è scontrata con i colibrì. Con i colibrì. Sono colibrì 80, no, sono 40-80, non riesco a ricordare cosa. Diplomatici, peraltro, cioè hanno lo status di Kofi Annan praticamente. Sì, così si chiamano, i colibrì diplomatici. Andiamo con gli ascoltatori. Massimo da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Innanzitutto grazie per aver fatto intervenire Vittorio Sgarbi, perché magari non sempre si condivide quello che dice o come lo dice, ma è sempre molto interessante, dà un sacco di stimoli sempre. Quindi non sono d'accordo con alcuni ascoltatori che prima protestavano, non sono assolutamente d'accordo con loro. Dunque, quello che volevo, su cui voglio intervenire, è l'invito del presidente Napolitano a festeggiare il 150esimo anniversario dell'Unità Nazionale. Beh, scusi, però qui siamo nel campo, come diciamo prima con Parenzo, dell'ovvio, cioè dello scontato. Non mi sembra che le parole di Napolitano oggi, al di là poi delle interpretazioni dette contro la Lega per stimolare o per bacchettare alcuni eccessi della Lega, insomma, mi sembra che stiamo parlando di una cosa che Napolitano faccia elogio al 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia e che dica non si deve insultare il tricolore, nel senso che l'oste dice che il suo vino è buono, ecco, in quel senso lì. No, ma non solo, è il capo dello Stato, il tricolore, il 150esimo dell'Unità d'Italia. Sul tricolore. È la bandiera dell'Italia, adesso non diciamo stupidaggini. Non facciamo una guerra su quello. Ma non facciamo chi è che dovrebbe fare la guerra? Nessuno fa la guerra. E anche le barricate di cui di tanto la Lega parla, anche quelle sono, come ho usato il termine prima lei, sono delle butade promozionali di tanto in tanto che fa. Però lasciateci veramente, poi nessuno farà barricate mai, però lasciateci sognare magari la secessione, lasciateci sognare l'indipendenza, lasciateci sognare. Ci sono un sacco di popoli in Europa, dai balloni fiamminghi, cechislovacchi, gli irlandesi, nel Kashmir, nel Sudan. C'è un sacco di gente che non si trova bene nella configurazione geopolitica in cui si trova. Qualcuno lo fa con le armi, altri lo fanno con i discorsi, parlando. A noi lasciatelo fare almeno con il sogno. Ho capito, ma uno può sognare quello che vuole, anche che esista una situazione simile a quella della Slovacchia o a quella della Vallonia o a quella dei Paesi Baschi, cosa che evidentemente non è così per storia, per una serie di motivi su cui adesso non voglio soffermarmi. Poi se uno si vuole inventare una storia dell'Italia del Nord... La realtà di oggi... Le posso anche dare ragione. Diceva che nel Rinascimento l'Italia era unita, ha assolutamente ragione. È che oggi la Lombardia non ha niente a che fare con la Campania. Questo non c'è dubbio, però è un altro discorso che non riguarda la storia, eccetera, eccetera. Riguarda non c'è niente da festeggiare per 150 anni, e questo è il punto. Non c'è niente da festeggiare. Va bene, Massimo, la ringrazio. Bruno da Siracusa, buonasera. Buonasera, guardi, io ho sentito poco prima l'intervento di del senatore, mi pare. Chi? Quello che parlava, che bruciava la bandiera italiana. Che non Bosso, non sì, italiano. Bosso. Sì, che non è più senatore. Questa persona deve capire una cosa. Sì, che deve capire? Che l'Italia è una, rimarrà una... ora e per sempre. Vabbè, Bruno, si calmi però. Si calmi. Sì, ma come si calmi? Ma si rende conto quello che ha detto questa persona? Ho capito, sono le opinioni di Boso. No, sono le opinioni di quelle persone che hanno portato tutte quelle guerre che ci sono state. Sono loro. Vabbè, adesso, sono allora quelli che provocano Boso come razzismo, come predicano il razzismo. Beh, certo, la questione dei ghiacciai degli extracomunitari, sì, o dei, insomma, a parte quello, a parte quello, non sono meglio di quelli del 1939 al 1944. Boso come sono i nazisti. La stessa pasta. Ho capito, Boso come i nazisti, va bene. Bruno, grazie, grazie. Cesare, provincia di Monza, buonasera. Buonasera. Dica. Complimenti per la trasmissione. Io volevo dire questo. Ho sentito la dichiarazione dell'onorevole Bossi in cui affermava che il federalismo è un modo adeguato per celebrare i 150 anni dell'unità. Io condivido questa affermazione. E in effetti è un'occasione per portare avanti questo paese, perché anche il signor di Siracusa prima è uno e uno e uno, d'accordo, storicamente non possiamo negare la storia, non esiste una Padania, però esiste una Lombardia dove un cittadino paga 65 euro all'anno per mantenere l'apparato amministrativo, in Sicilia mi pare che siano 5 volte tanto. Queste cose esistono e dal punto di vista il federalismo, dal punto di vista fiscale soprattutto, se non viene stravolto da meccanismi compensativi, permette ad una popolazione di giudicare effettivamente i propri amministratori. No, ma no, cioè, io sono su questo sono assolutamente d'accordo con lei. Per cui però questo non ha niente a che fare per portare avanti questo paese e fare una riforma strutturale. No, sono d'accordo al 100%. Se il governo Berlusconi riesce a fare questa cosa, io che non stravedo per Berlusconi, neanche stravedo tantissimo per Bossi, anche se francamente non l'ho mai votato, ma penso che lo voterò, perché francamente noi abbiamo bisogno di una Lega forte qua. Però Cesare, mi scusi un attimo, il problema è che tutti questi discorsi che lei ha fatto sui costi in Sicilia, in Lombardia, eccetera eccetera, non c'entra. Giorno, o ieri il programma di Giannino, ho sentito dei pezzi in cui metteva proprio l'accento su questo, cioè su queste questioni. No, ma Cesare, è solo che tutte queste questioni non hanno nulla a che fare con quello che sostiene Boso, che è un'altra cosa. Grazie. Sì, è vero, no, su questo grazie. Manuel da Monza, buonasera. Una sorta di provincia profonda che intanto parla attraverso personaggi come Boso, oppure in altri luoghi d'Italia parla con altri personaggi. Grazie, ecco. Grazie. Manuel da Monza. Sì, buonasera, dottor Cruciani. Dica. Guardi, io chiamavo per il discorso dei colibri. Io sono profondamente indignato per il discorso del signor Parenzo, perché secondo me il fatto che ci sia un centro di eccellenza con degli scienziati che stanno lavorando e che rischia di chiudere è una cosa gravissima. Oltretutto c'è un altro fatto, che cioè ci sono milioni di persone che la pensano diversamente, cioè nel senso che milioni di persone. Sì, miliardi anche. Che la pensa diversamente da me rispetto alla tutela dei colibrì, ma sta scherzando? C'è la fuga dei cervelli in sto paese e noi pensiamo a portare dei colibrì in Italia. Devo dire una cosa. Allora, certo, allora. Ma guardi, no, Parenzo, puoi consentire un attimo solo, Manuel. Parenzo, puoi ammettere che la ricerca sui colibrì potrebbe portare dei vantaggi? Ma cosa? Sull'Honduras? Al miglioramento della foresta amazzonica? Sì, magari. è così. Ma se Parenzo fosse informato, queste cose le saprebbe. Per i colibrì hanno la capacità di impollinare decine di migliaia di piante. Questa è una cosa che hanno detto gli scienziati, anche i premi Nobel. Quindi dipende dalla sopravvivenza della foresta amazzonica. Cioè, questo discorso è una cosa che è importantissima. È fondamentale. In questo momento di crisi dell'economia è fondamentale 100.000 euro per 40 colibrì. Dai, Parezzo, 80, scusa, 80. Sì, Parezzo, mi ascolti, ma scusi, ma con tutti i soldi che buttiamo via in Italia, il problema sono i 40.000 euro dei colibrì. Ma si rende conto che ho 600... Ma abbiamo 600.000 auto blu con l'autista, abbiamo, scusi, ma si rende conto che abbiamo? Io mi ricordo quando Berlusconi ha detto in campagna elettorale che toglieva le province, l'ha detto o non l'ha detto? 3 miliardi da risparmiare, sono ancora le province. Sì, però è un discorso che si può fare, con qualsiasi argomento, invece, perché non pigliamo i soldi lì o là? C'è un discorso più generale da fare, che è quello di come investiamo i soldi nella ricerca. Ora, la ricerca sui colibrì è una ricerca davvero essenziale su cui abbiamo voglia di investire, oppure no? Questo è, posso dirvi, ma io posso, guarda, dottor Cristiani, posso dire una cosa? Ma il punto è questo, cioè, secondo me, dal mio modesto punto di vista, no? Io non so se è parente credente o quello che è, ma il discorso è, se si estingue una specie animale o vegetale, è una cosa gravissima, e io penso che la sopravvivenza di una specie animale o vegetale vale molto, ma molto di più di una frase di Berlusconi, di Di Pietro, di Veltroni, metteteci chi volete voi, vendola. Ecco, questo è il punto, secondo me. Ok, questo. grazie Manuel. Susi, grazie, provincia di Milano, buonasera. Buonasera signor Cucciani, io sono una ragazza peruviana, sì. E sono stata a Trieste, sì. Sono andata a vedere questi colibrì, questo porticino bellissimo, sì. È piccolissimo, non so, sono indignata da questo signore che ha detto che Parenzo, sono degli animali schifosi. No, beh, non è tutto ma no, di queste cose. Hai detto questo, Parenzo? Hai detto questo? Io ho sbagliato, sono di cui non me ne frega niente, chiedo scusa ai colibrì. Ha capito, Susi, non gliene frega niente dei colibrì, Parenzo. Lei non conosce sicuramente i colibrì, fanno tante cose utili per questo mondo, dobbiamo impegnare a fare qualcosa. Addirittura Berlusconi si impegna, figuriamoci un po'. Faremo un appello per i colibrì. Ma non c'è bisogno, c'è Letta e Berlusconi che si occupano dei colibrì, ma stai scherzando, ormai gli appelli non sono più necessari. C'è un impegno formale di Berlusconi e anche di Gianni Letta, da quello che ci ha raccontato Vittorio Sgarbi. Bene, Mauro da Roma, buonasera. Buonasera Cruciani, dica. Intanto ringrazio Parenzo perché i colibrì fanno proprio schifo. Vabbè, non scendiamo così in basso. È troppo bravo Parenzo, quello dovrebbe far conduttore della radio privata, così almeno come te. Vabbè, calmi Mauro, allora dica. Come calmi? Come il senatore Boso, l'ex senatore Boso, colui che andava a spasso per tutta Roma, si faceva portare dalle sue scorte a destra e a sinistra, e poi che dice... Il nord, il sud, Berlusconi fa schifo. Ma tu sei ringraziativo, sei andato su al Senato grazie a Berlusconi. Ecco, ne fa schifo e viene a mangiare qui sul piatto nostro. Mauro, no. E che viene a mangiare qua sul piatto nostro? Scusa, no, se ne fa schifo perché. Ma quello non è più in Senato, non è più in Senato. Boso, è sulle montagne del Trentino. Detto grazie alla Lega. Lui è sulle montagne, lui sulle sue vite. Però intanto il suo autista privato ce l'ha sempre. Ma chi l'ha detto? L'autista privato? Ma quando mai? No, ma quando mai? Quando mai? Come no? E che va a spasso? Va a spasso da solo? Certo, la macchina da solo? Beh, guarda, io ti faccio, ti firmo una lettera dove io ti dico... A chi la firma? A chi la firma? Quello non c'ha autista privato. Vabbè, Mauro. Devo dare la linea a Rosalia da Milano per concludere. Buonasera, cara Rosalia. Buonasera. Sono divertita perché ultimamente la storia dei colibrì mi ha divertito moltissimo, però sono molto amareggiata invece rispetto a tutto quello che ha detto questo signor Boso, che a persone come lui non si dovrebbe nemmeno dare tanto spazio, perché fanno male e vorrei chiedergli, visto che lui ha detto che noi non conosciamo la storia, l'ha detto a voi ma è come se l'avesse detto a tutti. Vorrei dirgli, allora perché la gente, i ragazzi 19, 20 anni, 21, qui nell'ossario che c'è proprio a fianco di Sant'Ambrogio, vicino all'Università Cattolica, ce ne sono migliaia di targhette, di foto, allora tutti questi sono morti per Trento e Trieste nel 14-18. Personalmente ho avuto due nonni che hanno dato questa guerra. Ha fatto bene a ricordare, Rosalia, in conclusione di questa trasmissione, caro Parenzo, ci sentiamo lunedì. Ci sentiamo lunedì 18:30, l'unica trasmissione questa che si è occupata dei colibrì. A lunedì 18:30, ciao. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. C'è una mosca, una zanzara comunista che mi ha preso. Vedi? Eccola qua. Le zanzare di casa mia, la cruda verità. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio, c'è una cosa, non mi preoccupare. La zanzara.